I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. A Gigi, ma che sta a cucinare sul barbeculo? Sul barbeculo? Sto a cucinare la sarciccia. Oh, sarciccia! Ma che sarciccia è? La sarciccia de maiale? No, la sarciccia de manzo. Sarciccia de manzo, la sarciccia del porco bue. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica. Il lato B dell'industria del videogioco. Cari ascoltatori di DVL, bentornati sul nostro podcast per una nuova puntata intitolata Indietro Tutta, che come potrete forse intuire, insomma, è basata sul movimento indie, sui videogiochi indipendenti e su tutto quello che stanno significando in questo momento storico, e con qualche vedremo anche qualche rapido excursus storico grazie ai nostri ospiti qui in trasmissione, che sono Marpo. Ciao Marco. Ciao a tutti, buonasera. Il mitico Cristiano Caliendo, che ricorderete per i suoi grandi lavori con Calavera Caffè, sempre con il PN. Ciao Cristiano. Buonasera, ho capito perché a me sponsorizzate, a Marpo no, però scusami, è morto. È vero, Marpo. E no, Marpo lo ricorderemo per... perché non è... Ho fin troppa pubblicità, preferisco passare in anonimato. È vero. Ma tu non sei PN, vero Marpo? No. Però facciamo pubblicità invece a Bruno Barbera, perché è l'ospite diciamo più insolito della trasmissione, da Free Playing. Ciao Bruno. Ehi là, ciao a tutti, grazie. E niente, beh, come vi diamo anche un po' di riferimenti per la trasmissione, cioè il nostro sito di riferimento è www.dietrologiavideoludica.it, su Facebook e Google Plus frequentatissimo, come ben sappiamo, e siamo Dietrologia Videoludica, poi Twitter @dietrologiavideoludo e poi l'email dietrologiavideoludica@gmail.com, e poi ricordiamo che siamo in coproduzione con Italian Podcast Network e Retrocast del buon Marpo. Prima di cominciare tutta la nostra discussione, cominciamo a lanciare una rubrica, il primo avvio. Primo avvio. Amici di Etrologia, questo più che un primo avvio è il primo avvio di un primo avvio di un primo avvio di un primo avvio di un primo avvio, nel senso che ho provato la demo di Ride, gioco italiano della Milestone per la precisione, di motorette, di motociclismo. Questo gioco di motociclismo è estremamente ben fatto, è solo stato provato dalla persona sbagliata. Devo premettere alcune cose. I lati positivi del gioco ci sono. 1. Le moto sono estremamente ben riprodotte, durante i tempi di caricamento puoi leggere delle statistiche e delle informazioni utili o interessanti, comunque, se sei un appassionato di moto. La simulazione è ben fatta, ricorda, in qualche maniera un po' mi ha ricordato Assetto Corsa come grafica, come layout, diciamo, dello HUD e anche un po' di tutto quello che riguarda i menu, la gestione di menu e così via, però ha una sua personalità, ponendosi forse a metà tra la simulazione e l'arcade, in base a come ovviamente lo volete impostare. Nella versione demo non è possibile customizzare tutta una serie di cose o provare molte moto, ma semplicemente si può utilizzare una moto per la modalità cosiddetta modalità storia, diciamo, se così si può dire, quindi in questo caso la modalità carriera, E in altra maniera si può utilizzare un limitato numero di moto, in questo caso sono solo tre, italiane non, che lascio a voi il piacere di scoprire, però c'è la Triumph, c'è la Speed Triple o Triple Speed, come la amo definirla, materizzate come motociclisti proprio. Niente, detto ciò, è un gioco carino, ben fatto, che ha una sua personalità, ma sì, in un certo punto, nel senso che provandolo, giocandoci poco, ma provandolo, sono giunto alla conclusione che uno è per veri appassionati di moto, quindi gente che ci sbava dietro, che magari comprava o compra le riviste, che va in moto e vorrebbe, tra virgolette, guidarne delle altre dentro la pista, ma per motivi di soldi, di tempo, di tutto quello che volete, non è possibile come obiettivo. L'altra cosa è che forse è un po' troppo generico come gioco di moto, nel senso, in generale i giochi di moto, i giochi di macchine o sono delle cose particolari come Forza, che per certe cose prese da Gran Turismo, che nonostante io non sia assolutamente un appassionato di simulazioni di guida, mi prese a suo tempo per tutta la sua capacità nel riuscire a farti giocare ancora in modo da ottenere più fondi per modificare i pezzi e così via. Forse era il fatto che, insomma, l'otaku, il giapponese in me si risvegliava e urlava appena c'era la possibilità di accumulare, quasi di salire di livello. E in questo caso invece mi sembra un po' più basico, cioè fai la tua carriera, prendi la tua moto e così via. Bello sicuramente, ma magari nel lungo periodo stanca. Detto ciò, è sicuramente un prodotto interessante, è un prodotto italiano, non dimentichiamolo, quindi gode di standard molto elevati sicuramente. Lo raccomando forse solo a chi è un grande appassionato di motori, in questo caso di due ruote, e visto che su PlayStation 4 insomma non è che ci sia proprio tutta questa scelta a livello di arcade, di simulazione con un po' di realismo, direi che non si può pretendere più di tanto, almeno per adesso, ma sono sicuro che questo comunque serve come banco di prova per delle future installazioni, diciamo. Detto ciò, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao ciao ciao ciao. Osservatorio dietro ludico. Bene, bentornati in trasmissione e cominciamo con l'analizzare insieme ai nostri ospiti il primo punto di questo che sarà il nostro viaggio, ovvero un bilancio su quello che è stato l'indie fino a questo punto, quantomeno l'indie 1.0, se così possiamo chiamarlo. Quando l'abbiamo sentito veramente cominciare, quando ha cominciato a incidere sul mercato e cosa ha significato questo straordinario boom dei videogiochi indipendenti. Io faccio una piccola precisazione storica, diciamo, nel senso che i videogiochi indipendenti fondamentalmente ci sono sempre stati, no? Nel momento in cui sono nati i computer, in cui tutti hanno potuto, quelli più in gamba chiaramente, cominciare a battere del codice sul proprio computer di casa, in quel momento è nato anche il videogioco indipendente. Alcuni tra i videogiocatori, tra i programmatori di videogiochi più ricchi della storia, sono persone che hanno cominciato veramente come autopubblicandosi, autoproducendosi, tipo Richard Garriott e così via. Poi a un certo punto, insomma, nell'era moderna il videogioco è cambiato. Dopo la PlayStation 2, dopo i primi anni di PlayStation 3 e Xbox 360, c'è stato un sussulto del movimento indipendente. Voi quando avete sentito più o meno crescere fortemente questo movimento del mercato indie? Cominciamo da Cristiano, dai. Allora, piccola parentesi, Cristiano mi aveva detto: mi raccomando, non coinvolgermi, certo, troppo. Ma guarda, io, signor Santilio, sono onorato di essere la prima persona, soprattutto quando hai cambiato canale, non so se darti del lei o del tuo. No, tranquillo, poi ci penso, ti faccio sapere. Ma io comunque, riguardo alla domanda che fai, posso parlare un po' della, diciamo, del lato un po' adventure, no? Della, un pochino, certo, della di questa situazione. E in realtà già era roba che cominciava a saltare fuori già all'inizio degli anni 2000, però era proprio quell'underground che non è che veniva molto... A volte neanche venduto, diciamo, no? Sì, sì. Beh, io mi ricordo che ha cominciato a far vedere qualcosa come avventure Jonathan Box, che è quello di The Last Crown, no? Che fece Dark Fall, che sì, sì. È uno di quei giochi che prima di arrivare in Italia ci mise parecchio, perché comunque non era proprio di primissimo piano. E comunque cioè, è un gioco che adesso, oggi, non so se sarebbe tanto vendibile, perché effettivamente era molto molto... asciutto, diciamo. Sì, sì, era molto particolare proprio come... cioè era una cosa che non si capiva bene che tipo di collocazione potesse avere, questo è un po' il problema. Però più che altro cioè il movimento indipendente è nato secondo me come costola, cioè in parte, non completamente, del movimento amatoriale pure, perché c'era questo motore, questo engine che usano adesso moltissimo per fare avventure, che è l'AGS, Adventure Game Studio, che è nato proprio come volano, diciamo, per tutti gli sviluppatori. Sì, venivano fatti moltissimi giochi amatoriali, e per esempio quello lì che è forse il più noto è si chiama, non so se la pronuncio bene, comunque si chiama Czo Mythos, che è Desa Stranger, sì, sì, esatto. Six Desa Skeptic, esatto. Sì, sì, sì. Sì, questo è un pazzo scatenato che ha fatto quattro giochi, tutti molto collegati, diversi anche come interfaccia, perché mi ricordo il terzo che era pure testuale. Cioè un pazzo, sì, sì, sì. Belli, però, molto belli. No, erano, cioè, c'è un pazzo nel senso che comunque ha lavorato tantissimo a questa cosa e l'ha portata a termine. Aveva fatto anche altri giochi, sempre amatoriali. E questa era una cosa che però effettivamente erano conosciuti proprio solo dalla nicchia molto settoriale, sì, sì. Roba anche che non è mai stata tradotta, tranne il primo, mi sembra. E quindi insomma c'era questa cosa del movimento amatoriale. Anche Dave Gilbert, quello dei vari Blackwell Legacy e compagnia, sì, ha cominciato. In effetti Blackwell Legacy è, diciamo, la prima metà della storia e diciamo appartiene a un gioco amatoriale che lui fece, che adesso di cui adesso non ricordo il nome, qualcosa of Eternity, mi sembra. Beast Towers of Eternity, esatto, se non ricordo male. Era, diciamo, come storia copriva la prima parte poi di Blackwell, quindi anche lui ha cominciato così. Poi c'erano dei fangame pure di un certo livello. E poi alcuni sono poi confluiti un po' nell'universo indipendente. Chiaramente il momento in cui sono cambiate le cose è stato il Digital Delivery, no? Però il Digital Delivery, quello organizzato bene, perché finché c'erano gli store privati non è che poi si uscivano molto fuori dal loro orticello, no? Anche gli stessi giochi di Gilbert, mi ricordo The Shiva, non so, e lo stesso Blackwell non erano affatto famosi. Poi però quando poi Gemini Rue è riuscito, che non è di Gilbert ma è della stessa etichetta, è riuscito ad arrivare su Steam, poi si è trascinato dietro poi tutta quanta la produzione Wajetai, e di conseguenza poi sono usciti pure tanti altri giochi su quello stile lì. Però è stato grazie a, penso, a Steam soprattutto, più che cioè Digital Delivery in generale, no? Probabilmente sì, insomma, almeno su PC Steam è stato determinante, sì, PC, certo. Poi si è trainato un po' il resto. Ok, Marpo, tu invece quando è stato il tuo... quando ti sei agganciato da giocatore, insomma, diciamo, all'universo indie? Allora, da buon consolaro, ovviamente l'ho vista molto in ritardo questo grande movimento così antico che ha ben raccontato Cristiano. Stavo pensando però che più che un tipo di... come posso dire... una scena che esplora, è una scena che si basa su quello che ha trovato, ad esempio già il fatto che si sia potuta nascere grazie all'arrivo nelle case dei computer, degli home computer, che grazie a Steam, che è, diciamo, la fine del ciclo dell'indie.0, come lo vogliamo chiamare, dà una diffusione più facile, più anche una vetrina più facile, più capillare. In qualche modo non ha una forza d'esplorazione, ha una forza di espansione del contesto del videogioco. Secondo me il più famoso è quel successo, forse come simbolo, quello che ha legato Doom, mm-hmm, come distribuzione, lo shareware, tutta, diciamo, lo shareware, tutta la storia di questi programmatori che poi da lì sono partiti. Programmatori è un termine molto antico degli anni, degli anni sì, miei. E quindi sviluppatori, e quindi sì, anche perché è più ricco, c'è, cioè, più, non ci sono soltanto i ci vuoi mettere anche l'addetto al sonoro e tutto quanto il resto, al sonoro, al grafico, sì, però piace di più. E quindi nulla, secondo me è quello il simbolo dell'1.0. Poi ha avuto tante trasformazioni passando questi titoli, i titoli più famosi, arrivando fino a Minecraft. Però già lì stiamo nel 2.0, stiamo al confine, insomma, stiamo al punto cavallo, di svolta, diciamo. Sì, ho capito. Aperto, quindi tu lo vedi abbastanza frontiera, indietro, diciamo, questo inizio. No, non tanto indietro quanto era vedere come si muove questo strano animale dell'indie che più che esplorare cose nuove allarga, diciamo, quelle che già esistono, ma per forza, perché comunque le grandi cifre che ci servono, che servono per sfruttare, per creare nuove modalità, nuovi mezzi per giocare, non ce li hanno gli indie, certo, arrivano dopo, però lo arricchiscono col tempo, perché sono quelli che ci continuano a lavorare. Sì, lo vedo così. Poi rischiano anche di più, diciamo. Bruno, tu sei un po' speciale, diciamo, in questo senso, perché hai seguito abbastanza da vicino, anche perché sei stato una delle persone più importanti dietro Indie Vault. Sì, ci scrivevo. Scrivo post. Sì. Sì, tanti poi, tra l'altro, quindi seguivi molto da vicino la cosa. Come è nato il tuo interesse? Quando è nato il tuo avvicinamento, insomma, all'indie? Ma guarda, praticamente ci stavo pensando proprio adesso mentre gli altri parlavano, e direi che è nato più o meno quando ho iniziato il primo blog che iniziai a fare, diciamo, con un po' più di continuità, che era Recensopoli. Sta ancora, esiste ancora, sono andato a cercare con il mio amico Simone, e poiché decidemmo di dover fare un post al giorno, mi serviva, e decidemmo anche di non trattare news, quindi solamente recensioni o altri approfondimenti di altro tipo. E mi serviva un po' di materiale di cui scrivere, quindi i giochini più piccoli, più indie, erano perfetti per avere qualcosa di cui da provare velocemente, di cui scrivere velocemente. Quindi iniziai più o meno nel 2010, iniziai con la rubrica del gioco della domenica, che praticamente ogni domenica andavo su siti tipo Newgrounds, Kongregate, e mi provavo i giochi in flash, ne selezionavo uno e ci facevo un post breve. E poi iniziai a ravanare proprio su Xbox Live Indie Games. Sì, incredibile l'era. Era frizzante in un determinato periodo. Anarchico al massimo. Sì. E che è nato, stavo vedendo adesso, nel 2008 più o meno. E quindi anche lì mi provavo i giochi che uscivano, diciamo, perché poi là c'era un grande influsso di nuove produzioni, era un po' un app store ante litteram. Sì. Li provavo e li vedevo un po', e poi da lì un po' mi ci sono anche affezionato. Poi per caso cominciai a scrivere per Indie Vault perché cercavano redattori, e quindi mi proposi, da lì poi inizio a scrivere. Poi da un po' non ci scrivo più perché non riuscivo più a starci dietro, però per un po' sì, ho seguito tutta questa scena indie e tutto quanto, e non so se anticipo quelli che saranno gli argomenti, non c'è problema, quelli che saranno gli argomenti successivi, però ricollegandomi a quello che diceva Marpo, lui diceva la fase indie 1.0 era quella di Doom e dei giochi, giusto? Shareware, sì, simili. Sì, diciamo che è un'onda molto lunga. Secondo me uno degli apici è il momento di Doom. Sì, la sua affermazione. Guarda, per come la vedo io, a quell'epoca non esisteva neanche il concetto di indie. A quell'epoca esisteva il concetto, più che ci fu un post di diverso tempo fa, anni fa, su indiegames.com, di un tedesco che adesso non ricordo di preciso chi fosse, che diceva: no, qua in Germania una scena indie vera e propria non esiste, però esiste una scena dello sviluppo amatoriale che ha una grande tradizione. A me piacque molto questa definizione, perché personalmente tutti gli indie, diciamo, prima del periodo io personalmente l'evoluzione storica la faccio partire, la divido più o meno prima e dopo Braid, o comunque prima, sì, e dopo l'Xbox. Pensavo Live lo Arcade, stesso. Mm-mm. Perché non so se si sente la sirena da fuori un po' leggermente. No, e meglio. E quindi aspetta che finisci di passare, sennò viene... Io nel frattempo ho i bonghi qui davanti, non so se li sentite. No, qui no. No, no, perché ho dei fricchettoni che stanno un po' fumando e suonando. Vabbè, al Parco Sempione. È tipo Parco Sempione. Loro, bravo, sì che si godono la vita, invece noi qui... Vabbè. E invece noi loro facciamo, sì, i podcast. Loro sì che sono indie, soprattutto. Loro molto indie. Sì. E quindi no, dicevo, io la parte, quel mondo di sviluppatori pre Xbox Live Arcade, pre Braid, Jonathan Blow, poi anche Phil Fish, tutti gli altri li considero amatoriali tra virgolette, nel senso che era gente che magari sviluppava, era molto più nicchia rispetto a come fosse adesso la scena, era anche molto meno una scena rispetto a quello che è adesso, e era gente che sviluppava proprio per così, per a tempo perso, rilasciava i giochi in forma shareware oppure proprio freeware di pubblico dominio, e ci sono stati anche tanti, non dico capolavori, però comunque per esempio titoli meritevoli, sì. Sì, a parte le avventure grafiche che diceva Cristiano, che comunque hanno iniziato a uscire ben da prima dell'esplosione dei giochi indie. Io agli inizi capitai su, poiché a me piace Turrican per Amiga, venni a scoprire che ne esistono diversi remake più o meno amatoriali, e sono tutti giochi comunque belli, complessi, eccetera eccetera, che sono stati sviluppati appunto in questo periodo, diciamo, preistorico dell'indie. Sì. Poi invece è cominciata, non so di preciso come sia cominciata, io ripeto, considero più o meno Braid come un punto di svolta, però già da prima di Braid c'era già un fermento, si stava comunque formando una scena anche appunto intorno a siti come Newgrounds, come Congregate, che permettevano comunque di fare questi giochini piccoli in cui uno sperimentava, faceva vedevo un po' come funzionava una certa idea, un certo gameplay, una certa grafica, quello che era. Poi tra l'altro Newgrounds era anche un sito abbastanza ai margini tra virgolette, lo è ancora, ma all'epoca forse era anche più, diciamo, di rottura. E tra l'altro da Newgrounds sono usciti gli sviluppatori di Castle Crashers. Sì, però oddio, non mi ricordo come si chiamano, però ok, neanche io. Però prima di Castle Crashers, The Behemoth, esatto, bravissimo. Prima di Castle Crashers loro fecero un gioco addirittura per PlayStation 2, Alien Hominid, sì, infatti, che proprio quella è un'altra roba preistorica che uscì comunque prima in Flash, sì, in Flash, sì. Sì, fecero la versione, sì, sì. Quello, diciamo che fu a un certo punto secondo me, io ipotizzo che sia andata così, che da un lato ci sono stati questi sviluppatori anche giovani di una nuova generazione che hanno iniziato a fare questi giochini appunto in Flash o comunque usando questi tool, pubblicandoli sui siti eccetera eccetera, e anche esprimendo molto la loro personalità, mentre prima magari gli sviluppatori più amatoriali erano più, diciamo, tra virgolette tradizionali, o forse li vediamo noi tradizionali perché eravamo noi di quella generazione là. E successivamente, in questo periodo che credo sia stato intorno al 2005, comunque la seconda metà degli anni 2000, è nata tutta questa generazione di sviluppatori che ha ha cominciato a fare questi giochi in cui c'era il discorso dell'espressione personale, dell'arte, del significato e tutto quanto. Anche un, per esempio, Super Meat Boy, che è un gioco alla fine dalle meccaniche semplicissime, però c'ha dietro tutta una filosofia estetica, ma anche gameplay. Anche Binding of Isaac. Sì, è lo stesso autore, meno, sì. Sono molto autoriale, cioè il videogioco indie ti dà quell'impressione di autorialità, tu riconosci veramente un marchio, insomma. Però però c'è molto gameplay comunque. Sì. Cioè, di solito, sempre. No, però in questo caso questi due sono due esempi di giochi in cui comunque c'è proprio, cioè uno è un gioco di piattaforme e l'altro è Robotron, sì. Praticamente col sentimento, diciamo così. Sì, ecco, diciamo che secondo me questa autorialità è una roba relativamente recente, perché prima magari, ripeto, nel periodo preistorico, tra virgolette, si voleva più fare il videogioco per il videogioco, cioè io voglio fare lo shmup, voglio fare, oppure anche lo stesso Doom, che è nato come, diciamo, sì, c'erano le facce dei programmatori dentro, ma a parte quello, sì, potevi scorgere un po' la mentalità, il carattere di chi aveva fatto, però non erano opere personali come può essere personale un Binding of Isaac, almeno per come la vedo io. Sicuramente. Sì. Infatti questa è proprio preistoria, cioè questa rispetto all'evoluzione che c'è stata, è come, che ne so, i graffiti sulle caverne, sempre rispetto a Doom, che insomma è anche quello perché che è nella storia, a Rinascimento in qualche modo. Anche perché No, dicevo, anche perché comunque sono nati in un periodo in cui credo che anche la seconda metà degli anni 2000 fosse anche un periodo, poi io non ne capisco niente di musica, non ne capisco niente di cinema, però credo che in quel periodo cominciasse anche a nascere una scena indie musicale e una scena indie cinematografica, connotata appunto come scena indie, però sempre come indie inteso non perché all'inizio, specialmente all'inizio, adesso diciamo che è un po' abbastanza conclamato, però specialmente all'inizio diceva è indie se non è pubblicato dalle major, e in realtà non tanto, perché comunque indie ha tutta una connotazione anche estetica e filosofica dietro del gioco, che oltre a non essere pubblicato dalle major, che poi tra l'altro tante volte non è neanche vero, però soprattutto è più autoriale, più personale, più anche anticonformista sotto certi aspetti. Certo, diciamo quello rispetto alla musica è un po' il contrario, nel senso che con la musica all'inizio, specialmente c'era la scena indie italiana che c'era all'inizio del 2000, successivamente partiva tutti più o meno da una certa connotazione, e poi era semplicemente perché non erano prodotti da major. Invece effettivamente, come dici tu, è un po' il contrario nell'ambito dei videogiochi, cioè l'estetica se la sono creata successivamente, prima erano un certo modo e poi se la sono creata, effettivamente è vero. Diciamo che se tu cerchi oggi vai a comprare un videogioco indie hai delle aspettative di un certo tipo. Sì. Non vuoi Assassin's Creed, diciamo, ecco. Anche perché qui è una cosa che secondo me va comunque diciamo tenuta presente. Braid non l'ho scelto a caso come spartiacque, perché poi alla fine c'è stata Microsoft che aveva lanciato il suo servizio Xbox Live Arcade. In realtà leggevo adesso su Wikipedia che addirittura l'aveva lanciato già ai tempi della prima Xbox, però diciamo che era più che altro per l'online, penso, in quel caso. Sì, però credo che sia, diciamo, è nato tra virgolette veramente con la 360, sì. E quindi c'era Microsoft che aveva lanciato questo servizio con la 360 e aveva bisogno comunque di, diciamo, di materiale da pubblicare su questo servizio. Allora all'inizio si sono appunto, si chiamava Arcade, per cui puntavano sui giochini arcade, avevano anche delle dimensioni limite da non superare, quindi Geometry Wars è stato una delle prime hit, poi Street Fighter HD che dovettero aumentare i limiti, però poi appunto probabilmente in quel momento videro che c'era questa scena appunto di giochi indie che stava nascendo principalmente su PC, con appunto quei siti lì che ho già detto, che non sto ripetendo un'altra volta, e quindi videro che c'era sta gente che poteva essere, diciamo, captata e proposta in un certo modo, e secondo me è stata paradossalmente proprio una major come Microsoft che ha spinto una certa idea di videogioco indie, perché poi è stato, hanno pubblicato Braid e hanno detto: ah, questo è il gioco indie fatto dall'autore singolo, la poesia, la, tutto vero, non è che lo sto dicendo, però certo. Sono stati anche molto, tra virgolette, furbi quelli di Microsoft a prendere quel determinato gioco in quel determinato momento e farne una bandiera per tutto un genere, insomma, per tutta una corrente, diciamo. Esatto, perché hanno preso appunto quello e Braid, e poi sono andati avanti con appunto Super Meat Boy, che pure è stato pubblicato da Microsoft. Limbo è stato pubblicato pure da Microsoft. Sony un po' ha inseguito da sto punto di vista, perché loro, Sony prese Dead Game Company, a cui ha fatto fare prima Flow, poi gli ha fatto fare Flower, poi gli ha fatto fare Journey. E... che però aveva un meccanismo diverso in quel caso lì, era partito dal publisher e poi c'era un publisher a monte che finanziava dall'inizio, invece nel caso di Braid, Limbo erano già progetti, diciamo, abbastanza avviati e poi, diciamo, andati in porto grazie, penso, a Microsoft. Sì, no, ma Microsoft, Limbo tra l'altro, adesso probabilmente dico un sacco di castronerie perché comunque non ricordo bene tutti i dettagli, però credo che Braid, a parte che tutti sicuramente li ha finanziati Microsoft, questi progetti più piccoli, e addirittura Limbo mi sa che fu finanziato anche, perché è un gioco danese, probabilmente da Danimarca, fu finanziato proprio da un fondo per gli artisti lì in Danimarca, sì. E quindi insomma, e questo che cosa ha provocato? Ha provocato che il gioco indie è stato visto, è stato spinto da Microsoft e in parte anche da Sony poi, ed è stato visto come un gioco di un certo tipo, per cui tutte quelle produzioni precedenti che magari non avevano queste intenzioni di autorialità, di personalismo, di significato, eccetera eccetera, automaticamente non sono state più viste così tanto, cioè sono state letteralmente messe da parte, messe in ombra, perché comunque poi tutti i siti cercavano per gioco indie, cercavano sempre il gioco appunto che ci avesse significato, l'autorialità, la narrazione, diciamo, questa roba qua un pochettino. Sì, cercavano appunto lo stereotipo di videogioco indie che aveva proposto Microsoft, e quello è diventato il videogioco indie, quindi è diventato un meccanismo che perpetuava se stesso, perché Microsoft spingeva quel tipo di gioco, gli sviluppatori, anche ovviamente attirati dal successo dei giochi spinti da Microsoft, automaticamente hanno cominciato a voler fare quel tipo di giochi, a interessarsi di quel tipo di giochi, i giornalisti, i siti si sono interessati di quel tipo di giochi, e quindi tutto un meccanismo che si è autoalimentato e ha fatto sì che alla fine si è creata questa scena indie dove appunto è molto caratterizzata dal punto di vista delle tematiche, dal punto di vista di tutto quanto, cioè Certo. Anche per questo mi piaceva, e poi chiudo, mi piaceva molto appunto, diciamo, ravanare appunto nei bassi fondi, tra virgolette. Seguirla così da vicino. No, mi piaceva ravanare nei bassi fondi di Newgrounds, di Kongregate e dell'Xbox Live Indie Arcade, Indie Games, perché erano tutti posti dove potevi trovare anche al di là, diciamo, potevi trovare tra virgolette l'indie dell'indie, ma anche effettivamente produzioni che alla fine erano semplicemente il giochino amatoriale che potevi trovare anche prima. Certo, oramai si era già comunque affermata questa estetica un po' più così, però comunque per trovare qualcosa che non fosse sempre il solito puzzle platform oppure il solito gioco più o meno narrativo esistenzialista, bisognava andare un po' a ravana. E mi piaceva appunto, che ne so, su Xbox Live Indie Games ho tanti bei ricordi di giochini proprio fatti, che lo vedevi che erano fatti da gente super appassionata, super più che super appassionata, super alle prime armi, però trovavi sì, gente sì. Che in effetti non trovavi solamente gente che voleva fare il platform con il tizio che ha perso il gatto e quindi seguendo il gatto ritrova il senso dell'esistenza, trovavi anche il tizio che voleva fare lo shmup, il tizio che voleva fare il puzzle game, il tizio che voleva fare addirittura, certi ci provavano a fare anche avventure grafiche, avventure in terza persona. Ovviamente, essendo limitati sia i mezzi dei singoli che li facevano, certo, sia il framework che veniva usato con l'X-Blig, non potevo uscire chissà che, però mi piaceva appunto vedere queste produzioni che alla fine sentivo più genuine, perché erano meno inserite in questa scena che poi ha prodotto anche tanti personaggi che più o meno controversi, sia come sviluppatori sia come semplicemente opinionisti, gente che magari non ha mai toccato codice, non ha mai fatto grafico, sonoro e niente, che però comunque è stata coinvolta poi, insomma, in tutto questo. Sì, perché alla fine poi sono diventati, creandosi questa scena, c'è stato anche spazio per avere notorietà in ruoli che magari in scene più consolidate non hanno poi tutta questa tra virgolette importanza, perché per esempio ci sono stati diversi giornalisti anche che hanno hanno assunto una certa notorietà, una certa importanza, sì anche siti, poi magari ci arriviamo a questo più avanti, c'è un altro punto magari dove lo trattiamo più nello specifico. E quindi è così che ho scoperto i giochi indie. Perfetto. Scusa, Gianluca, tipo chiusura del tema di scuola elementare, insomma, è così poi alla fine. Dimmi, Cristiano, dimmi. Sì, tipo, io speriamo che me la cavo, perché arrivano così. No, dicevo, io volevo dire una cosa. In effetti, poi diciamo risalire storicamente alla nascita degli indipendenti, abbastanza difficile, impossibile, forse, anche perché, come hai detto tu all'inizio, comunque prime videogiochi venivano fatti, sai, il classico garage, quindi erano una o due persone, sì. No, da i bedroom coder li chiamavano, sì. Jordan Mechner usava il fratello per fare i movimenti del principe, no? La fidanzata per fare la principessa, no? No, aspetta, quello fu non la fidanzata, è chiaro. Scusate, sì. Fu cugina. La figlia non mi ricordo chi, però se vi andate a vedere le come si chiama di diari di sviluppo di Jordan Mechner, lo dici, perché si era anche presa una mezza sbandata per questa qua. Ah, vedi, era quasi una fidanzata. In testa a lui sì, in testa a lei evidentemente no. È stato il primo friend zone digitalizzato praticamente della storia. Sì, una roba del genere. Tra l'altro, se cercate su YouTube si trova anche il filmato originale di lei, no, che si gira e abbraccia il principe. Sì, era la figlia, mi sa, di un qualcuno di Brotherbond o qualcosa del genere. Sì, vabbè, scusate. Vabbè, il lato gossip ci deve sempre, ci deve essere rilevante. No, però dico, cioè, quindi c'erano comunque questi, diciamo, autori solitari che poi vendevano il gioco già finito, magari alle, no, alle etichette, le cose. Sì. Poi per esempio, cioè, è chiaro che Marco ha ragione, cioè, quello che ho coperto io più che altro forse è l'1.5 più che l'1.0, cioè, quindi la roba precedente non l'ho considerata, però vabbè, è chiaro che ci sia pure le cose shareware della come si chiama, la Apogee. Ma poi prima ancora di Doom c'era Wolfenstein, Commander Keen saranno messi, ci sta Super Mario su Nintendo, facciamo il nostro Super Mario per... cioè, quindi era un po' così. Quindi è difficile adesso, vabbè, risalire storicamente. Più che altro quello che dicevo io era più quando è cominciato quel tipo di fermento che è stato forse accompagnato dalla possibilità anche di lavorare a distanza o comunque di distribuire il gioco su internet, cosa che prima chiaramente non si poteva fare. Quindi c'è stata un po' questa sensazione di comunità che si è creata in tutto il mondo, no? Appunto, come dicevo, questa comunità di Adventure Games stadio che prima studio anzi si dice che prima chiaramente mi raccomando non... che con l'inglese siamo no, molto vabbè, che... ci teniamo no, ci teniamo che quando lo so poi mi sento un creativo ad averlo pronunciato male quella rara volta che succede quindi cioè c'era questa cosa di comunità che prima non esisteva e che poteva esistere solo su internet, quindi quando hanno cominciato a distribuire i giochi su in rete la cosa ha cominciato anche a cambiare. Poi vabbè, a livello commerciale, come a parte Steam per PC, giustamente Bruno diceva Braid, lì proprio è stato proprio il punto di svolta, anche perché poi ci hanno pure fatto il film sopra su quel tipo di esperienza fra Super Meat Boy eccetera, non sappiamo. Quindi da lì in poi poi Braid è uscito successivamente anche su PC, ha avuto successone anche dalle nostre parti, anche un pochino dopo, un po' indifferita, però il movimento ormai si era già consolidato, quindi sicuramente dal 2000 è cominciata un po' la fase 1.5 forse, no? Quella lì un po' internettiana di questo pure lavoro anche a distanza io stesso per esperienza abbiamo lavorato, sviluppato un gioco in tre punti diversi d'Italia, cioè completamente a distanza, per cui succedeva un po' questa cosa che prima non potevi fare perché per una questione anche di capacità di banda, cioè magari internet anche c'era. Se c'era qualche coraggioso programmatore Amiga che si mandava i dati, scambiava i dati con i suoi collaboratori tramite i modem a tipo 400 baud, roba del genere, spaventosa, assolutamente. Ma sì, infatti c'è sempre appunto, cioè, si può sempre andare indietro, ecco, questo è un po'. Sì. Sì, però sì, diciamo più che altro il momento in cui si è passato a una... No, perché sennò sembra che tipo il nostro idolo assoluto Favij che dice che a Repubblica sempre dice che aspetta, Slender è il primo gioco indipendente della storia, no? Quindi allora per evitare questo tipo di sparate più o meno cioè da dire che la cosa è molto complessa e radicata molto tempo fa, però sicuramente con Braid e compagnia sicuramente c'è stato questo punto di svolta che ha portato a questo successone, a questo nuovo tipo di filosofia anche autoriale che prima forse era un po' meno presente. Tutto qui. Ok, io stavo controllando così per curiosità quando era uscito precisamente Braid, ed è uscito nel 2008 per Xbox 360, quindi diciamo un paio d'anni dopo l'arrivo della console. Oggi siamo nel 2015, quindi sono passati 7 anni. In questi casi faccio sempre un paragone su quelli che potevano essere 7 anni quando io, diciamo, ero un ragazzino, avevo l'Amiga, cioè erano più di una generazione, cioè cambiava il mondo completamente, cioè dal 95 per dire all'88 giocavo col 64 e poi la PlayStation, quindi il mondo era cambiato almeno 2 volte per quanto riguarda i videogiochi. Invece per l'indie diciamo che la fase di maturità vera e propria, diciamo post Braid, è arrivata diciamo negli anni molto recenti, no? Ci ha messo sicuramente l'intera generazione PlayStation 3, Xbox 360 a maturare, quindi nel frattempo appunto questi programmatori hanno lanciato i primi progetti, hanno avuto successo, penso sempre agli autori di Bastion, i Super Sonic mi sembra Software, che hanno fatto Bastion, hanno avuto successo. Super Sonic erano quelli che facevano Micro Machines, mi sa, figurati. E quindi hanno avuto successo con Bastion e poi hanno avuto un budget superiore per fare un videogioco più strutturato, forse almeno audiovisivamente, che è stato Transistor, quindi piccoli indie che crescono, se così vogliamo dire. E quindi c'è una nuova fase dell'indie che dovrà porsi inevitabilmente nuovi traguardi. Secondo voi come sta andando a modificarsi questo mondo di nuova generazione per quanto riguarda gli indie? Marpo, dimmi tu. Ma su questo punto io ero più partito con una cosa visionaria, quindi... Visionci. Perché rimanendo sempre con questa considerazione che non apre nuove frontiere ma le esplora, l'indie, il futuro sarebbe che può portare il mondo dei videogiochi dove non è riuscito ad arrivare. L'indie si muove grazie alle infrastrutture messe a disposizione dai grandi, diciamo così, certo, che muovono i soldi, Steam, le varie adesso varie le console, sì. Che si stanno ancora più spendendo per questo modo, questo punto di vista. E potrebbero però portare i videogiochi, mettendo diciamo degli ambiti tra virgolette, non dico culturali, però dove non sono mai arrivati. Qual è il tuo gioco? Che gioco sogni? Il tuo gioco per il 2016? No, indie? Sognano. Ah, su questo. Pensaci, invece che come lo porterebbe dici. Al contrario. Uno sparatutto proprio ignorante. Ignorante, eh beh, sì. Pare che il nuovo Doom sia abbastanza. Ignorante, forse. Diciamo, non troppo. Una via di mezzo l'hanno definita tra Doom 3 e il primo Doom. Quindi insomma. Ah, è ignorantissimo, allora sì. Non che il 3 poi fosse, eh. Però. Non è che fosse proprio esattamente il top dell'intellettualità. Vabbè, Doom è così, se ci si mette troppa storia non è più Doom. Assolutamente. Chiaro. E comunque, niente, mi hai fregato, niente più immaginazione. Ignoranza e basta. Ignoranza e basta, beh, quindi un ritorno alle origini. Sì, sì, sì. Okay. Ad Abuzza. Perfetto, quindi diciamo forse tu lo vedi più come un completamento di quello che... Cioè, ormai abbiamo fatto la fase hipster, quindi tutta roba un po' sofisticata... Sì, successivamente tu pensi che di completarla la casalinga, la casalinga di Voghera che si mette a giocare a un gioco indie. Perfetto. Come si diceva una volta, questo è. Ignorante, quindi. No, ignorante. No, ignorante era perché se mi chiesto il gioco che mi sarebbe piaciuto giocare, gioco ignorante. No, che è un gioco di tutti i giorni. Il gioco diciamo di tutti così. I giorni. Ma guarda che questa qui è una cosa. Come i cellulari insegnano, il gioco di tutti i giorni. Che andasse per forza il rompicapo. Ma è proprio una cosa. Secondo me lo può fare soltanto l'indie, non. I giochi AAA. Flappy Bird l'hanno già fatto, però quello è stato di massa e molto indie. Non ho capito. Flappy Bird, quello dell'uccellino del tizio indiano che era gratis, però, che era non lo so, però comunque sai, ci avranno messo un po' di pubblicità dentro, sì, gratis, forse, due soldi. C'è la pubblicità. Ah, c'è la pubblicità. Okay. Quindi insomma, un po' di soldi li avrà fatti anche lui. Io voglio toglierlo. Beh, sì. Bruno, e tu cosa ti aspetti per il futuro indie? Cioè, nel senso, quali prospettive immagini? Allora, praticamente, nel frattempo che parlavate, ho trovato che si chiama Tine La Do, che letto con questo accento, con questa O chiusa, La De Au, la ragazza francese. Non lo so, era la figlia di Peter La Do, non ho idea delle origini, però era la figlia di Peter La Do, che era il uno che lavorava comunque in Brotherbund e che... Uh-huh. Insomma, gli presto la figlia per fare sta scena. Tra l'altro, gli presto la figlia. È sto leggendo che purtroppo pare che sia morta. Anche no. Ah. Momento di tristezza. Cercando su Google ho trovato questa cosa qua. Poi c'è l'allegria. Stava smorzata così. Rampando momento prima. Comunque, dopo. Sì, no. La vita sua. È così. La storia. Ma anche può darsi anche di no, perché magari è una. Una omonima e no, può darsi ma comunque sempre con una grattatina, però è rimasta in ogni caso va sempre immortalata nei nostri cuori e tutto quanto, soprattutto e... nei cuori di Jordan a parte comunque... tutto ciò. Ma no, ma in realtà poi ho fatto mente locale, a lui non piaceva, lei gli piaceva più che altro, cioè lei dice che era nel diario, scrive she's a fox, è una volpe. Sì. Però più che altro a lui piaceva assai la copertinista, che poi vi raccordo, la copertinista che fece la copertina del gioco, non mi ricordo come si chiamava, però curiosità delle curiosità fu la il modello da cui presero, com'è che si chiamava la ragazza di Guybrush in Monkey Island? Elaine. Nel primo Monkey Island, quando si vede il ritratto, e quella è la copertinista. Ah, pensa un po'. Di... Ah, bello, è vero, hai ragione. Sì, c'era questa cosa della copertinista, mi ricordavo. Adesso è vero. La copertinista di Prince of Persia, cioè. Non male, eh? Sì, sì, e sì. Quindi... No, io punterei al puntatone speciale su questa costruzione. Sì, poi non so. La moglie o no. Sì. Sì. È vero, poche donne nel mondo dei videogiochi erano sempre quelle. Si aggira, dice tu. Sta prendendo una piega pericolosa, però l'episodio. No, vabbè, no, è scherzo, un problema sociale. Scherzo. Poche donne in questo ambiente. Lo sapevamo già. Sì. E lo sapeva anche Jordan, che praticamente appena si avvicina una donna sta tutto infoiato. Quindi, giustamente. Quindi, vabbè, quindi dicevamo, dove va la scena indie? Sì. Guarda, prima parlando, appunto, voi dicevate Flappy Bird, un'altra roba, un altro grande filone degli indie è stato appunto quello mobile, perché nel mobile ancora di più, mentre comunque su Microsoft, su Sony, per essere pubblicati bisognava avere comunque passare tutta una certificazione, tutta una serie di step, insomma, perché c'era una forte selezione all'entrata. E invece adesso nel mobile invece era molto più facile pubblicare, quindi molti dicevano: ah, quelli sono i veri indie, perché insomma c'è ancora molta più varietà nel mobile. Anche su Android anche troppo, diciamo, forse. Più varietà, no, ho detto male, diciamo che comunque c'è più libertà nel perché chiunque può pubblicare una roba, poi fanno giusto dei check per vedere se parte, se non parte, se ti distruggi il telefono. Certo. E quindi quello è il modello verso cui pare che cioè il problema è stato che storicamente si è passati da una situazione in cui c'erano questi marketplace molto controllati, molto chiusi, come XBLA e come PSN. Piano piano si sta passando al modello App Store, dove tutti entrano e insomma poi la legge della giungla, e purtroppo sta legge della giungla ha fatto molte vittime, fa molte vittime, perché giustamente emergono i giochi tra virgolette facili, oppure la hit così estemporanea come Flappy Bird, e quindi uno non se la sente, gli sviluppatori non se la sentono neanche di investire tempo e denaro, certo, per sviluppare il gioco che richieda un certo impegno, perché sanno che poi magari gli sparisce nello store. E quindi o glielo clonano anche, perché c'è anche il problema dei cloni, almeno esatto, su Android. Esatto. E quindi diciamo che il problema principale che si è mostrato nel tempo poi è stato quello della discoverability, come si dice in gergo, cioè della possibilità di scoprire ed essere scoperti in questi marketplace. E però ciononostante si è andati tutti verso un modello, cioè c'è stata molta tra virgolette apertura, anche per esempio Microsoft e Sony, che all'inizio erano più chiuse. Vabbè, Microsoft da subito ha fatto l'XBLIG, che però ha tenuto sempre come una riserva degli indiani sull'Xbox, dove tutti potevano accedere, però poi alla fine comunque era sempre un market molto limitato, dove pochi hanno trovato un successo economico. A parte anche perché poi secondo me all'inizio c'erano anche dei prezzi esagerati, c'erano dei progetti piccolissimi venduti magari a $9, a roba del genere, se non ricordo male, poi sì, li abbassarono su XBLA, ci cioè sono sempre stati prezzi diciamo sui $10-15. Su XBLIG poi non lo so se inizialmente c'erano quei prezzi, però quando lo frequentavo io i prezzi erano $1, $3, $5. Forse c'era già stato l'abbassamento. Mi ricordo che all'inizio partirono male perché non era proporzionato, insomma, rispetto alla qualità, a parte la qualità, ma proprio anche al valore del prodotto, dal punto di vista dell'impegno del programmatore, insomma. Prezzi un po' troppo ricavo da parte di Microsoft, probabilmente, non lo so. Può darsi, non so questo dettaglio. Comunque, adesso, oggi come oggi, se uno è un indie, c'è Sony, che se gli dici che fai una roba su PS Vita ti finanzia subito. Oddio, magari ultimamente no, sì, perché hanno detto che è, però PS Vita è diventata la console degli indie, perché a parte che poi c'è anche da fare tutto il ragionamento del fatto che comunque il mercato tra virgolette mainstream si è focalizzato su poche hit su cui convergono tutti i fondi e tutte le vendite, e tutto il mercato medio è stato un po' fagocitato dal mercato indie, che invece nel frattempo è cominciato a espandersi anche come budget delle produzioni. Quindi se un tempo magari ti usciva, che ne so, un Deadly Premonition, oggi è più difficile che ti esca un Deadly Premonition, è più facile che ti esca un gioco indie fatto da magari da giapponese, no, perché là in Giappone gli indie sono ancora un pochetto indietro, sì. Io non direi indietro, perché poi vai a vedere gli indie occidentali, no, Anzi, per, secondo me, per molte cose il mercato giapponese è molto più, sarà anche che poi vabbè, essendo lontani, nonostante internet e tutto, comunque rimane una roba molto lontana per il problema della lingua, quindi non possiamo conoscere più di tanto tutti i dettagli di quella situazione lì, però lì c'è molto molta meno, cioè in Occidente c'è la cosa del programmatore che da solo si mette, sviluppa, l'artista crea, fa, magari ti tira fuori la cosa che è la grafica, però comunque c'è il significato, la visione, l'estetica, magari il codice. Invece in Giappone sono tra virgolette più professionali, non difficilmente farebbero tante robe che si vedono, per esempio su X-Blig, alcune delle produzioni migliori, una di Revolver 360 e sì, dal Giappone, proveniva dal Giappone, ed era comunque, per quanto non avesse qualità AAA, però era comunque molto più curata del, dell'indie medio occidentale su X-Blig. E comunque dicevo, si sta molto aprendo il mercato e le console ormai è diventato tra virgolette abbastanza semplice pubblicare anche su console. Su Steam c'è stato Greenlight, che all'inizio era più difficile passare, adesso da quello che so è questione solamente di tempo, più l'early access che ha permesso anche a chi magari non riesce ad arrivare a una pubblicazione completa il giorno dell'uscita, comunque di finanziarsi vendendo il suo gioco quando ancora non è completo, più Kickstarter, più insomma c'è stata un'apertura estrema del mercato. Però appunto c'è il problema della discoverability, del fatto che escono tante robe che anche si disperdono tante energie, perché ognuno vuole fare il suo gioco e qui alla fine vengono tanti giochini singoli ed è difficile trovare il gioco che riunisce più personalità, più energie. Quindi quello che vedo per il futuro degli indie, e chiudo perché in effetti sto diventando un po' logorroico, è che bisognerà affrontare questo problema della sovrapopolazione, e per esempio già ci sono un po' di segnali. Se vai a vedere su Apple Store, su App Store hanno cominciato innanzitutto a non dare più tanta importanza alle classifiche di vendita, alle classifiche dei download, ma più importanza alla curation, cioè ai giochi che vengono selezionati a mano dalla redazione Apple e vengono proposti, e addirittura hanno creato una categoria per i giochi non free to play, perché prima erano tutti mischiati, invece adesso c'è la categoria gioca, compra e gioca e basta. E su Steam stanno cercando di risolvere il problema attraverso il mining dei dati, vedendo quello che uno, proponendolo da un po' di tempo che Steam propone una home page più personalizzata in base a quelli che sono i gusti della gente, eccetera eccetera. Steam ha attivato anche un'altra opzione, cioè normalmente non fa vedere tutte le uscite, bisogna cliccare su tutti i giochi usciti, altrimenti mette solo i più popolari rilasciati, come dicono lì. Esatto, e quindi il futuro dei giochi indie sarà, secondo me, anche oltre a questo, sarà anche di cominciare un po' a, oddio, è un argomento così vasto che un po' mi perdo, non avevo visto. Sarà anche di cominciare un po' a darsi una visione più industriale, perché un altro problema, e poi c'è chi non la pensa come me, c'è Davide con cui faccio free playing che non la pensa come me, che un altro problema è che con i giochi indie è che tu fai il gioco, magari ti va bene ma magari ti va male, però finito quel gioco poi sei a piedi, e che fai? Fai un altro gioco, spendi tutti i suoi soldi. Per esempio parlavamo prima di Jonathan Blow, da quando ha fatto Braid ha preso tutti i suoi soldi e magari credo che ne abbia anche se ne sia anche tirati su altri tramite finanziamenti, si è messo a fare The Witness, da quando è uscito Braid, quindi dal 2008, ancora non l'ha finito, ancora deve uscire, ci ha speso tutto quanto, e se The Witness va male sono fatti suoi. Per Jonathan Blow. Esatto, no, intendo dire si mette, brucia tutto, si strappa i capelli, no, questo è il rischio, infatti lì forse c'è stata anche un po' di ingenuità da parte sua, ora è tutto da valutare. Sicuramente a quel punto forse poteva appoggiarsi a un publisher, aveva una reputazione, boh. Ma sicuramente no, avrà avuto finanziamenti anche da Sony, perché comunque uscirà inizialmente su console, PlayStation. Su PlayStation. E quindi, però, insomma, quello che voglio dire è che è facile, è diventato un po' come il mercato, come quello che è il mercato, ripeto, io non capisco niente di musica, però come il mercato musicale, dove c'è magari la One Hit Wonder e poi sparisce nel dimenticato. Oddio, ci sono state anche in passato figure, certo, del genere. Per esempio il creatore di Manic Miner, che non so se avete visto il documentario. Bellissimo, sì. Andato in Olanda senza soldi, lui mi ricorda. Sì, è proprio inguaiato adesso. Matthew Smith si chiamava. Esatto. Il documentario com'è che si chiamava? From Bedroom to Billions. Penso di sì. No, dovrebbe, c'è un documentario che si chiama così, non mi ricordo se è il suo, però ci sta, insomma, che sia quello. E l'hanno fatto vedere che sta proprio inguaiato. Però insomma, voglio dire, sicuramente i publisher tra virgolette malvagi limitavano la creatività e tutto, però ti davano un po' la sicurezza tra virgolette che entravi nel software house, mo' lavoravi un progetto, poi ne lavoravi un altro, poi ne lavoravi un altro, c'avevi sempre qualcosa da fare, c'avevi sempre, poi ovviamente capitava che fallisse tutto quanto, però era più un discorso industriale anche continuativo. Adesso invece un po' è anche il mercato che è impazzito completamente, ci sta appunto il Flappy Bird che dalla sera al mattino diventa la hit mondiale, poi magari dopo una settimana nessuno se lo ricorda più, e coso, Angry Birds pareva, furono loro che mandarono il satellite nello spazio per pubblicizzarsi, adesso invece non esiste più. Hanno fondato intere società su Angry Birds, adesso non esiste più. C'è anche un parco giochi in Cina, se non ricordo male. Addirittura. Sì, se non ricordo male, sì. E quindi ci sono questi grandi successi, poi grandi fallimenti, e poi ecco quello che forse ci giriamo intorno senza riuscire a coglierlo. C'è poca possibilità nel mercato come adesso di crescere in maniera organica, anche perché appunto ci sono i publisher Sony e Microsoft, appena vedono un gioco interessante dicono dai vieni qua che te lo pubblichiamo, te lo facciamo, e quindi uno si impegna, fa il suo gioco, però poi una volta che il gioco è uscito, cioè Microsoft dice beh è uscito il gioco, ciao, ci vediamo, non è che ti tiene là, ti cresce, ti fa... E quindi si basano anche sul fatto che comunque c'è tutto questo magma di sviluppatori che producono a getto continuo, e allora va quello di Microsoft, vede quali sono i migliori, dice tu sì, tu no, tu sì, tu no. Quelli che dice tu no ovviamente rimangono gambe all'aria, quelli che dice tu sì c'hanno la chance. È diventato tutto un reality sto mercato. Ma quindi tu pensi che non sia ancora arrivato il momento della stabilità da questo punto di vista? Cioè pensi che sarà sempre così più o meno? No, penso che da un lato ci sia questa tendenza appunto da talent show, da reality, con sta gente che viene assurda, meteore, diciamo, superstar per una settimana e poi viene buttato nel dimenticatoio o comunque chissà che fa. Perché davvero poi io con Indie Vault, perché Indie Vault è comunque un sito di sviluppatori, quindi si vede un po' più il lato dietro le quinte tra virgolette dei giochi indie, mi sono anche diciamo familiarizzato con quelli che sono poi i guadagni, le spese per fare un gioco, e in alcuni casi ti può capitare benissimo che tu magari stai 2 mesi, 3 mesi a fare un gioco e poi vendi tipo 50 copie al giorno, se ti va bene a un centesimo. Mamma perché mia. Ci stanno i super saldi, oppure se non vai su mobile ancora peggio, perché se non sei gratis, certo, se nessuno ti scarica non vai sulle classifiche, se non vai sulle classifiche nessuno ti conosce, certo, e quindi è una giungla. E quello che sarà appunto l'Indie 2.0 o 3.0, quello che sarà di, secondo me, cercare di dargli più una forma un po' più strutturata, un po' più decisa, in cui possa possa crescere in maniera più organica e più strutturata, perché ripeto, com'è la situazione attuale, essere indie è davvero difficile, perché quando c'era appunto solamente Jonathan Blow e quelli là, magari c'erano anche meno sviluppatori, però c'era più spazio per tutti, chiaramente c'era più spazio per tutti. Poi tra le altre cose adesso sono anche esplosi, all'epoca c'era solo Flash come tool diciamo un po' più accessibile, forse anche Game Maker o l'AGS che diceva Cristiano Carino. Sì. E adesso invece tutti puntano al guarda a Unity, no, ma oltre a Unity anche Unreal sì, adesso sì, con gli ultimi aggiornamenti, con l'ultima versione, uno dei punti di forza è stato il sistema dei blueprint, si chiama, che loro l'hanno pubblicizzato come un sistema per creare giochi che può essere usato anche dagli utenti avanzati di Minecraft, quelli che tipo si mettono e costruiscono i computer, gli hard disk, sì, Minecraft, sì, sì. Per loro hanno pensato sto blueprint, che diciamo che è una roba che non so di preciso come funziona, però comunque è una roba che ti permette di toccare poco il codice, abbatte tante barriere. E quindi tutti puntano a sta tutto facile, tutto pronto, tutti possono essere programmatori. Spazio alle idee, chi si fa avanti, insomma. Per esempio, io seguo Jim Sterling su YouTube, non so se lo conoscete. No, penso. Sì, abbastanza. Fu quello che diede 10 a Deadly Premonition. Sì. Sì, allora sì, mi ricordo. E lui c'ha una rubrica che fa vedere tutti i giochi su Greenlight e su anche in Early Access. E ci sono delle robe che magari vengono fatte con un po' come il Seuk dei bei tempi, che uno prendeva la demo standard, magari ci cambiava due cose. Sì, e sì, pubblicava. Sì. La stessa cosa con Unity, prendi la demo standard, ci cambia due cose. Adesso ci stanno anche gli store che vendono gli asset, quindi ti compri, sì, infatti ci saremmo arrivati prima o poi, ti compri magari l'omino dallo store, ce lo metti là e toh, ti sei fatto Call of Duty tra virgolette artigianale, lo metti su Greenlight. E ce ne stanno tante di persone così, ce ne stanno, sì, tante che affollano questi store, e quindi magari quello che c'ha l'idea un po' più rimane sepolto in mezzo a sto macello e non riesce a spuntare fuori. Ok, hai un gioco che ti immagini oppure che desidereresti vedere nel prossimo futuro? Tipo gioco dei sogni, non lo so. Sì, non c'entra molto con gli indie, però non so se lo sapete che di recente Arc System Works ha acquisito Technos, che Arc System Works, sì, quello, sì, che ha fatto Guilty, sì, Gear, e tutti quei picchiaduro 2D, esatto, tutti quei picchiaduro 2D in alta risoluzione. Technos è quella che c'ha Double Dragon, Renegade, quindi io spero che faccia un Double Dragon in alta risoluzione. Ma tra l'altro speravo che sti cazzo di indie, scusate il termine, facessero, cioè, perché poi alla fine, ripeto, si sono focalizzati tutti su sti caspita di platform, puzzle platform, esistenzial platform, oppure quelli che cammini in mezzo alla strada. Sì, effetti. O guarda là un albero, guarda là un film. Senza platform, quindi quelli che invece walking. A me piacciono i picchiatura, scorrimento. Vabbè, l'ignoranza Dragon, anche tu, okay. Bruno, come diceva Marco. L'ignoranza come filo conduttore. Sì. No, ma mi piacciono come genere, però per esempio quello è un genere che negli indie lo vedi poco, oppure quando lo vedi. Vedi sempre le robe super tante virgolette ironiche del boscaiolo che ammazza, sì. Ecco una software house indie che vi consiglio molto è Pixel Jam, che sono quelli di Dino Run, che fanno dei giochi secondo me proprio squisiti, davvero squisiti, pixel art, anche pixel art bella potente con i pixel enormi, però con una grande attenzione alla giocabilità, molto belli. E anche, visto che ci stiamo, Nightrom e Neutronized, che tra l'altro Neutronized è italiano e Nightrom ci lavorano in italiano, che fanno tutte robe in pixel art, flash, giocatore da browser. A me piacciono sti giochi, cioè io poi ovviamente sono della mia generazione, quando vedo il giochino arcade più arcade così mi si scioglie il cuore, ti cominci a gasare, certo, no? Sì, è normalissimo, sì, sì. È normalissimo. Vai Cristiano, dimmi la tua. Sì, Bruno ha fatto una panoramica abbastanza corretta, mi ci ritrovo abbastanza. Secondo me, volevo aggiungere una cosa, c'è anche il problema, che secondo me è un problema, della percezione, cioè da parte del pubblico. Cioè il pubblico, chiaramente uno non può colpevolizzare il pubblico, perché sta poi nel chi sta dall'altra parte, cercare di un po' di educarlo, di sedurlo, eccetera eccetera, però diciamo è un po' caprone il pubblico, quindi si muove un pochettino a onde, a mode, no? Allora all'inizio, quando è uscito Braid, quando è cominciato questo movimento indipendente, c'è stato, come dire, hanno avuto un po' vita facile gli indipendenti, cioè qualsiasi cosa bastava che fosse un pochino, sai, avesse quel piglio un po' autoriale, un po' magari ci mette un po' hipster, come sì, si usa, che dire, come dicevi tanto. Anche prima tu, esatto, che hipster, con la magari con la grafica un po' retro, che subito il pubblico, bellissimo, eccezionale, com'è bello, quanto mi piace sta roba. Chiaramente queste cose qui si riflettono molto anche sugli sviluppatori, perché purtroppo a livello promozionale gli indipendenti non sempre possono spingere molto, perché comunque non avendo una produzione, cioè questo tipo di magari non hanno proprio un reparto marketing, non possono contare su questi. Allora magari puntano sulla cosa un poco più, diciamo, appetibile per il pubblico in quel momento, tira per avere pubblicità gratuita, ed è quello che un po' succedeva. Cioè mi ricordo che, allora, premesso che per me il momento attuale dei videogiochi è ottimo, cioè perché adesso veramente si trova un sacco di roba, varietà che prima non c'era, anzi sono anche più contento rispetto al periodo in cui tutti quanti dicevano, sempre per questioni di moda, che le cazzine erano inutili, che la storia era inutile, perché c'era la Wii che aveva spadroneggiato e tutti quanti giocavano solo a Wii Sport. Esatto. E quindi dicevano che tutta quella roba lì era completamente inutile. Ora io non dico che la verità sia il contrario, dico solo che ci sono un sacco di sfumature in mezzo, no? Quindi mi ricordo quando dicevano proprio che il futuro era qui nel gameplay, nel prendere la persona comune, eccetera. Poi si è visto che invece adesso sono forse passati all'eccesso opposto, con questa ondata di roba, sai, le cose esperienziali, narrative, forse, ma, no? Sì, però secondo me si è completata, si è, no? Cioè, questa era una parte che mancava, cioè siamo passati da un eccesso all'altro, forse. No, ma infatti io ci vado abbastanza a nozze, perché io non aspettavo altro che il genere The Walking Dead. Era un po' di tempo che dicevo, che poi Heavy Rain, d'accordo, però diciamo che il vero boom c'è stato dopo, no? Sì. Erano anni che stavo dicendo, ma quando è che fanno una roba del genere? E poi finalmente ci sono arrivati. Però per arrivarci, cioè, sono passati comunque a fare, che te devo dire, Bone, che non se lo fregava nessuno, sono tornati a fare le avventure, poi dopo Jurassic Park è stato disintegrato da tutti, invece non era male, secondo me. C'era il passaggio intermedio, no? E quindi questo per dire Telltale, che poi sono stati forse quelli più centrali per questa nascita. Sì, ma poi secondo me il modello Telltale, come altri, come il modello Tale of Tales, per sì, magari anche sempre nell'indie, è sostenibile, diciamo, nel mercato indie. Sì. Heavy Rain perché lì vai a parlare di milioni di dollari di budget. Lo stesso pure è un bel esempio, perché loro sono proprio convinti, cioè loro non sono modaioli, cioè loro non è che hanno cominciato a fare gli indipendenti quando c'è stato il momento degli indipendenti, già lo facevano prima. Cioè già facevano questa roba super autoriale con la vecchietta. Tra l'altro io ho giocato proprio recentemente Sunset. Sì, l'ho visto il video. È bellissimo. Cioè, ho visto il video e è andato in wishlist subito. Però ecco, ma adesso che mi hai fatto, non mi ricordo se l'hai fatto per Steam Raiders o per il Signor Santiglio, che no, Steam Raiders comunque quello, è il nome più bello del mondo, Signor Santiglio. Certo. Devo dire, comunque. No, però ecco, il rovescio della medaglia sta secondo me nel fatto che un pochino ci si siede sugli allori quando si vede questa ondata, no? Quando va a tirare, eccetera, e mancano le sfumature. Per esempio, tu ultimamente hai recensito un gioco di cui non ricordo il nome, in pixel art avventura, come si chiamava? Alum. Esatto, che forse è ascrivibile in quel genere di roba un po' annoiata, sì, facciamo l'indie con i pixel perché tira, no? Perché c'è una mezza idea esperienziale. Capito? Io pure da sviluppatore parlo, cioè noi ci siamo trovati in difficoltà con questo tipo di percezione, perché purtroppo adesso forse si sta un po' saturando, anche guardando Greenlight, prima andava fortissimo certa roba, adesso anche si sta un po' smontando pure a poco Greenlight e tutto quanto, però diciamo che forse adesso si sta arrivando al punto di saturazione e si riorganizzerà, però fino a poco tempo fa mancavano proprio completamente le vie di mezzo, cioè quindi o facevi la roba super autoriale, super indie, super retro, oppure la gente semplicemente non riusciva a capire cosa aveva di fronte e non ti seguiva più. Cioè ecco il caso nostro di Shadows on the Vatican, che forse non ha questa identità visiva particolare, anzi non ce l'ha probabilmente, però ecco a livello di budget siamo tranquillamente super indie, cioè posso assicurare che siamo proprio allora noi non dico che avremmo potuto fare Pixel e poi siamo coraggiosi, abbiamo fatto altro, non è tanto questo, il fatto è che un po' la tecnica, un po' il tipo di gioco poi ci ha portato in quella direzione. Però mi ricordo che il tipo di riscontro iniziale per chi guardava il trailer, l'immagine, cioè fu questo, cioè non riusciva a capire se era un indipendente o una produzione diciamo fatta con tutti i crismi, allora professionale, esatto, più che altro passava più per la seconda cosa, diceva vabbè, ma, è vero, sono convinto anch'io di questo, diceva ma scusate, ma visto che come dire fra virgolette ci avete i soldi e fate sta roba qui che comunque ha quella parvenza un pochino sai un po' imbolsita dell'animazione, no? E invece noi è il contrario, che siamo noi siamo partiti per cercare di sforzarci fare una cosa un pochino più tecnicamente diciamo non dico migliore, diversa, un poco più, cioè sì, c'è sì, più sì. Uno sforzo un pochino maggiore, questo sì, poi d'accordo lo stile è importante quindi non è detto che sia più bello assolutamente, però dico c'è uno sforzo tecnico un pochino maggiore di un Blackwell per esempio, no? Cioè che comunque a me piace un casino perché sono poi a me piace moltissimo la pixel art, per cui insomma certo. Però dico cioè c'è comunque uno sforzo tentativo di fare una cosa magari un pochino diversa e questa cosa non viene capita, non viene proprio percepita dal pubblico e quindi secondo me c'è bisogno forse non lo so di continuare a cioè di forse ecco ma continuare a cercare di fare le cose un po' più varie, cercare che fino a poco tempo fa una roba per esempio come Dear Esther chi la giocava quella chi l'avrebbe roba? Pensato cioè, certo. Nessuno il pubblico non l'avrebbe mai toccata una roba del genere, cioè penso proprio al periodo della Wii, no? Ti portavi Dear Esther, diceva no, qua devi solo camminare, devi premere avanti e anche basta. Se era quello il periodo poi sai un pochino, no, un pochino sì, dopo era lì un pochino no un po' successivo un mi po' sembra. Dopo forse sì, sì. Un po' successivo al periodo Wii però appunto è stato quello che poi ha generato una ondata, però prima di quello cioè chi è che ci pensava a fare una cosa del genere, cioè era proprio stava andando proprio in una direzione diversa il sì ma anche perché poi eravamo reduci dalla generazione PlayStation 2 fondamentalmente, no? Sì. La Wii è arrivata diciamo come prolungamento di quell'epoca, sì, sì. E dove cioè, il gameplay era fracassone, cioè andavano gli sport estremi se vi ricordate i combattimenti fra auto i giochi di quel tipo, sì, poi c'era God of War che era uscito da poco, quindi era molto non so neanche come definirlo, però insomma molto, molto elementare, molto poco riflessivo, no? Come gameplay, non per questo brutto, intendiamoci, però chiaramente se lo andiamo a paragonare poi a Bredo di The Wrestler, un pochettino qualche differenza la si coglie, sì, no? Sì, sì. No, ma infatti aspetta, qui stavo vedendo anche un po' The Wrestler dovrebbe essere il 2012, vabbè la Wii è uscita un bel... addirittura pensavo molto aspetta prima. A meno che questa non sia una versione stra rebecchizzata, cose vabbè quello inizialmente era una mod mi pare di Half-Life, quindi se vogliamo forse per quello first release giugno 2008, infatti mi ricordavo sì, questa io, no sì, vabbè giusto. Sì sì vabbè io parlavo di quella commerciale chiaramente perché poi quella un po' quella di riferimento la Wii chiaramente del 2006 2007 vabbè comunque sia no ci fu un poco questa tendenza un po' al super gameplay sempre orientato sul gameplay non mai sull'esperienza sulla trama, poi invece c'è stato questa specie di combilanciamento come dici tu, no? E quindi secondo me adesso forse ecco c'è gente che si accorge che giochi come quello che hai recensito tu sono un po' non lo so sono un po' annoiati, sono un po' bluff, no? Non lo so, c'è questa tendenza sì, vengono fatti per farli più però, che senza che ci sia una professionalità, esatto, uno studio alle spalle, però forse se usciva 2-3 anni fa non ci se ne accorgeva tanto di questa cosa perché assolutamente capito? Perché presi anche magari dall'idea che purtroppo il pubblico è fatto un po' in questa maniera, cioè è difficile riuscire a far capire una sfumatura quando in quel momento sta andando proprio di moda qualcosa. Quindi secondo me la cosa importante, io parlo da, chiaramente da uno che rischia pochissimo perché non sono un produttore, quindi con questa cosa di vantaggio, secondo me si deve fare quello che si sente di fare, basta. Il bello dell'indipendente è anche questo, cioè non da seguire il flusso della l'onda lunga, ma cercare di fare una cosa personale. E poi secondo me, se la cosa è valida adesso con questo digital delivery eccetera, secondo me prima o poi si riesce a uscire fuori. Se vogliamo, anche Gemini Rue, che secondo me è un gioco della Madonna, certo. Cioè, inizialmente ebbe comunque problemi ad affermarsi, è arrivato su Steam e si è portato dietro tutta la produzione Wagettai. Quindi ci vuole forse un momento, un input, qualcosa che faccia lì, sì, deve, qualcosa che deve spaccare il mercato e poi spianare la strada, che non sempre dipende dalla qualità, purtroppo. Quindi secondo me, certo, bisogna non farsi condizionare, farlo lo stesso come lo vuoi fare. Poi se hai la botta di fortuna e magari c'è azzecchi perché magari c'è un elemento esterno che ti dà una mano, d'accordo, se no altrimenti non lo so. È che io non riesco proprio ad accettare l'idea che un indipendente si diventi parte dell'onda lunga, cioè che un indipendente dica beh, adesso faccio sta cosa perché tira, cioè per non parlare di tutta la roba horror che è uscita, appunto, che è stato il primo citato, insomma, Slender, Outlast eccetera, si tende anche un pochettino a fare quello perché magari tu hai la spinta pubblicitaria dagli altri, YouTuber, esatto, che magari in quel momento e funziona molto bene quel gioco per lo YouTuber che si spaventa e quindi fa accessi per questa roba. Quindi è difficile, cioè non è semplice per l'indipendente affermarsi in gioco singolo, ma si riesce forse ad affermarsi meglio come genere, cioè i vari generi vincono sull'idea singola, e questa è una cosa un po' pericolosa che sta un poco uniformando un universo che dovrebbe essere molto, molto vario, però va bene lo stesso, cioè comunque meglio di prima, secondo me, molto meglio di prima. Ok. Puoi dirmi anche tu il gioco dei tuoi sogni per quanto riguarda il prossimo futuro? Ma indipendente, non lo so. Vabbè, stavo. Cioè, cosa ti aspetteresti? Cosa ti piacerebbe stavo vedere? Stavo per partire, diciamo, uno spammone, ma mi sono tratto. Vabbè, no, non vale. Chiaramente un certo atto terzo non vale. Vale, esatto. No, perché quello se esce come i miei sogni, sono contento. Comunque, in realtà poi, vabbè, Telltale forse chiamarli indipendenti proprio non lo so. Però secondo me quel genere lì, ma sai, io una volta pensai che sarà stato il 2008 più o meno, no? Non c'era ancora questa, pensai, ma perché non fanno, nessuno ha mai pensato di fare un gioco di calcio però modello Telltale, cioè, capito? Cioè, Oli e Benji Telltale, sì, praticamente non è tanto importante lo sport, ma l'esperienza, no? Che ci sta, cioè uno che è presente il film Goal, è orribile, però sì. Cioè uno che fa magari l'uscita con la ragazza, poi dopo si deve parlare con certo, l'allenatore, cioè una roba che copra tutto un quanto. Manageriale che però vada ad abbracciare anche questi aspetti, tipo. Sì, però non manageriale, cioè prendendo proprio una storia, diciamo, proprio il personaggio, il calciatore, capito? Ok. Cioè, non dico che il gioco dei che torna a casa, prende il pullman, esatto. La doccia, viene contestato dai esatto, tifosi. Questo sì, il contestato mi piace. Però ecco, quando poi sei sul campo, è il momento proprio della verità, cioè il momento catartico, no? Magari non devi fare una simulazione come FIFA, che è precisa, ma una roba più basata sull'esperienza, un po' Telltale, che cosa vuoi fare, fai la scelta, prendi qua, prendi là. Quick time event. Sì, magari anche un po' quello. Però, anche sì, quello. Sì, però, detto questo, a me non importa niente del gioco di calcio, parliamo di calcio. Però dico, perché nessuno ci ha mai pensato su questa cosa qua? Cioè, nessuno. L'esperienza del vivere il sogno del calciatore, ecco, questa è una cosa che nei giochi, infatti, sportivi non vero. C'è, per esempio. Vabbè, è vero. E un po' c'è stata controversia Hollywood. Come, scusa? C'è stato all'Hollywood la notte, il sabato sì, notte, esatto. Ci ubriachi felici dentro in Ferrari. Come si chiama il locale di ubriatori? Billionaire, no? Il billionaire. Esatto, sì. Trovi la velina. Piace. No, vabbè, una cosa del genere c'era in Tocares Driver, perché tu c'era tutta la storia, no? Tu eri un pilota, poi però c'era una trama. Sì, no? Infatti, sì, una mezza cosa. Infatti, perciò io ultimamente cercavo questo, guarda caso, cercavo nei giochi di calcio. No, io dicevo, so che esiste non, perché i giochi di guida non li seguo molto, dei giochi di guida con una trama, volevo capire che esattamente questa trama come si riusciva a infilare un gioco di guida, non c'entra proprio niente, no? Quindi, ma tu in questo in toga si riusciva anche, cioè si usciva dall'auto, no? Comunque non si usciva, giusto? No, però tu praticamente facevi una gara, sì. Ti diceva dai, allora fammi vedere che cosa sai fare, devi metterti in mostra per, no, tu facevi questa cosa qui e poi ci partiva una cutscene se riuscivi a qualificarti, e poi c'era pure la ragazza e ci stava sì, sì, è un po', un, diciamo, un po' timida, però più o meno, diciamo che le varie categorie, le varie, i vari premi erano collegati da un, da un avanzamento nella storia, insomma, tu quando comunque superavi quelle... Scusa se mi interrompo, sì, un gioco così esiste, se non mi sbaglio si chiama Lords of Football. Sì, Lords of Football. Vado subito a vedere. E tra l'altro è fatto in Italia, cioè gli uffici ha collaborato Vialli, mi sa, no, su quello forse. Mi pare di sì. Gli uffici stanno in Italia, però il team mi sa che è abbastanza internazionale. Ah, ma è recente pure, vedo. Ah, quindi abbastanza, sì. Ah, Cristiano, vedi, l'importanza dell'emergere, come diceva Bruno, effettivamente. Sì, mi hanno anticipato perché sta cosa ci avevo pensato 5 anni prima, quindi vabbè, succede. No, vabbè, comunque vabbè, non so se esattamente come dicevo, però devo controllare, sì. Ok, carino, va bene. Io nel frattempo accelero un attimo, sì. Sennò poi ci no, volevo, allora adesso diciamo appunto Cristiano è un po' un esponente del movimento italiano del videogioco, diciamo, no? Perché chiaramente lo saprete forse se seguite questo podcast, lui è uno degli sviluppatori di Shadows on the Vatican, che è un'avventura grafica appunto incentrata su una storia di fantasia, chiaramente basata su un libro di David Yalop, si chiama David Yalop, sì, si chiama in nome di Dio, ecco, sì. In nome di Dio, insomma, un prodotto interessante sicuramente. E quindi come vi sembra il mercato italiano in questo momento? Cioè, nel senso, c'è qualche gioco che vi ha colpito ultimamente? Pensate che sia possibile battagliare a livello della concorrenza straniera, sempre ovviamente parlando di indie? Bruno, tu cosa ne pensi? Sì, eccomi. Guarda, intanto parlando di indie è più o meno forzato, perché in Italia, a parte Milestone e sì. Ubisoft Italia, gli uffici Ubisoft Italia, credo che non ci siano altri. E anche questa casa che ha fatto Lord of Football mi sa che non è così piccolina. Non però è tanto indie, diciamo. Per il resto ci sono tanti team che non hanno, tra virgolette, la potenza economica per non essere indie, anche se magari poi a livello di produzioni non sono indie come estetiche, come quello che dicevo prima, no? La filosofia, sono più diciamo, mi viene da dire low cost, però sembra brutto dirlo, sono più diciamo sviluppatori, piccoli sviluppatori che propongono comunque prodotti che non seguono tanto l'estetica indie quanto comunque delle linee forse un po' più tradizionali, appunto, che si rifanno più alla scena tra virgolette amatoriale che c'era prima di Braid e tutto, ma perché del resto qui dall'Italia, e a parte forse One and One Story di Mattia Traverso, che forse qualcuno si ricorderà, non sì. sono usciti, che io sappia, troppi giochi tra virgolette indie, ma proprio indie come estetica, come filosofia. Infatti poi sempre Mattia Traverso adesso sta lavorando a Fru, che è quel gioco che usa il Kinect. Sì, molto, penso veramente, non perché lo conosco, ma una delle idee più originali che si siano viste per il Kinect, insomma, insomma. E anche lì comunque c'ha quell'estetica, ma del resto è anche un fatto generazionale, perché comunque Mattia credo che abbia 22-23 anni adesso, è giovanissimo, e mentre invece la maggior parte dei software, almeno io, Cristiano, tu c'era lo Svilupparti anni scorsi, sei venuto? No, però mi sembra che venne qualcuno del team, sì, ci stava, sì, infatti mi ricordo. Gian Domenico Maglione, forse qualcun altro, credo. Sì, perché mi sembra che fecero uno speech. Scusami, no, finisco. Mi sembra che fecero uno speech su sui primi due episodi e sulla roba loro, che in cui noi non c'entriamo perché noi siamo Adventure Productions in realtà. Forse 2 anni fa, forse. Eh sì, quindi comunque citavo prima la Svilupparty, per chi non lo sa è un evento annuale che io ho partecipato 2 volte come tra virgolette giornalista di IndieVault, che un po' riunisce gli sviluppatori italiani che in 3 giornate stanno lì in questo stanzone, presentano i loro giochi sulle varie postazioni, uno si porta il portatile, lo butta su una scrivania, fa vedere i propri giochi agli altri sviluppatori, ci sono, nel frattempo ci sono i talk dal palco in cui si presentano i giochi, si parla post mortem, è un bel eventino. Sono stato un paio di volte, poi c'è il famigerato momento della birra gratis, che diciamo che riscalda gli animi, lubrifica molto le relazioni, le amicizie. E quindi per quello che ho visto, poi tra l'altro visto che ci siamo cito anche il Game Happens, se non mi ricordo male, che invece è a Genova ed è organizzato da Federico Fasce, tra l'altro ci dovrebbe essere tra qualche giorno, non so se quando verrà pubblicato il podcast ci sarà già stato, comunque dovrebbe stare più o meno verso la 3/4 di giugno, verso 26, non vorrei dire una data sbagliata, andate a cercare Game Happens, che però è ancora più indie, mentre lo Svilupparty è più proprio tutti gli sviluppatori, infatti e appunto frequentando lo Svilupparty ho visto comunque molti, cioè, non dico che c'era tutta la scena italiana dello sviluppo, però abbastanza. E ho visto molti titoli appunto che non seguivano questa filosofia indie, che magari erano sicuramente indie come budget, però sì, dal punto di vista estetico non erano l'indie, ripeto, alla Braid, alla Limbo, però che ne so, sono usciti tanti giochini da dei sviluppatori italiani, alcuni anche carini, divertenti. Uno che mi è piaciuto molto, che ve lo consiglio proprio forte, che non è neanche stato pubblicato, è stato realizzato per una gem, per la Specie Gem, è Space qualche cosa, poi vi dico il titolo, lo vado a recuperare. Sì, magari lasciaci il link, lo mettiamo tra le note poi dell'episodio. È bellissimo, è un arcade adventure fatto in stile Spectrum, e con tanto di color clash, l'autore l'ha fatto in Unity, l'ha fatto in 48 ore in Unity. Si è programmato uno shader apposito per simulare il color clash dello Spectrum, è bellissimo, dura poco perché ovviamente è 48 ore, figurati. Però è proprio un'avventura dinamica, come si diceva ai tempi, che è davvero molto ben fatto, molto curato, e quello mi è piaciuto molto. E poi tra l'altro nella scena indie non abbiamo parlato del fenomeno delle gem, che là infatti sì, si andrebbe ad aprire tutto un altro capitolo, però comunque è molto importante anche questi eventi, che anche allo Svilupparty non fanno gem, però quando capitano a gem sono quegli eventi in cui i programmatori dicono entro 48 ore bisogna fare un gioco, che ne so, sulle palle rimbalzanti. Non so perché è venuto questo esempio, però potrebbe anche essere valido come tema. Perché ci si mettono tutti quanti. La più famosa è la Ludum Dare, che si fa in tutto il mondo, anche online. Però ce ne stanno tanti anche a team, appunto, con una specie di gem che dice di fare un gioco in sti aspetto. Comunque, gli indie italiani. In Italia purtroppo non esiste un'industria dei videogiochi. Non esiste un'industria dei videogiochi perché, come sappiamo, è, a parte Milestone, che però si è un po' ripiegata su se stessa e sul genere delle corse automobilistiche, tutte le altre software house che iniziarono a sorgere, a crescere negli anni 80, alla fine chi più chi meno. Tra l'altro Svilupparty è organizzato da Ivan Venturi, che probabilmente qualcuno se lo ricorderà, come che no. era Il boss di Simulmondo o uno dei programmatori, adesso non ricordo, era chi era uno dei programmatori, un boss Francesco, sì. Verla. Il boss era Carlai, esatto, infatti, esatto, sì. Bravo. E quindi purtroppo tutte queste realtà sono nate, però in Italia non sono riuscite a creare un sistema, e quindi poi ovviamente ci sono stati anche, per chi lo sa, diversi fatti più o meno controversi nella scena italiana che hanno anche contribuito, diciamo, a non... Ecco, il problema, se devo dire un problema, io quando scrivo su IndieVault, una cosa che ho cercato di fare collaborando con IndieVault era di, ma che del resto poi è lo scopo di IndieVault, di creare un punto di ritrovo, di aggregazione, di convergenza, di anche io quando ero su IndieVault, magari qualcuno anche della community l'ha contestato, cercavo di spingere anche i progettini magari più amatoriali, però pensavo magari dai un po' di incoraggiamento, la gente si motiva, magari conti, se invece vai là, oddio, poi c'è anche l'altro lato, che se vai fai passare tutti, ovviamente tutti pretendono di passare, esatto, e quindi insomma è sempre un po' difficile. Comunque quello che personalmente rilevo in Italia è che c'è poco networking, cioè ci sono tanti team, poi appunto c'è un evento come lo Sviluppo Party che è molto positivo perché un po' fa conoscere anche di persona tutte queste realtà però ripeto, la realtà indie, per ritornare alla domanda che mi sto una trotta dilungando, è che italiana, e che ci sono tante realtà amatoriali o comunque di piccolo cabotaggio che fanno, però non hanno la mentalità indie, anche per questioni proprio anagrafiche, però producono, e c'è chi produce in flash, appunto la Neutronized che dicevo prima, e tra l'altro il ragazzo di Neutronized è bravissimo, fa dei giochi che andate a vedere sul suo sito, sempre ovviamente roba flash, pixel art e tutto quanto, però è davvero davvero bravo dal punto di vista, pare che si chiama Alessandro Pezzetti. Poi c'è lo studio Evil a Bologna che hanno fatto Cider Arcade, che è stato un po' il loro... Per esempio loro hanno fatto sto Cider Arcade, che è un gioco che specialmente all'inizio aveva qualche cosa da aggiustare, però poi l'hanno aggiustato, adesso è molto piacevole, un clone di Defender, con sì, grafica sì, super eccetera eccetera, però non ha avuto il successo che speravano, e quindi adesso si basano più che altro su lavori su commissione. So che stanno anche però lavorando a un nuovo progetto. Sì, dicevano che li usavano questi giochi su commissione per finanziare poi, esatto, progetti, esatto, più loro, insomma. Il problema è sempre questo, i soldi. Ma sono i soldi, è vero. C'era anche per esempio Eurostar, appunto di Federico Fasce, che è andata avanti, che forse era la realtà più indie tra virgolette indie, anche dal punto di vista estetico, della filosofia, e che però purtroppo ha dovuto chiudere i battenti qualche mese fa perché non riusciva più a sostenersi economicamente, non riusciva più a trovare commissioni. Poi c'è sì, Santa Ragione, ce ne stanno tanti. Santa Ragione anche, sì, appunto, loro pure sono molto indie, molto bravi anche dal punto di vista, ecco, forse io dico che non ci sono tanti indie perché a me piace di più quell'altro tipo di sviluppo, diciamo, indipendente, però più diretto. In effetti c'è anche Santa Ragione, che hanno avuto il loro hanno fatto degli ottimi giochi, Fotonica, me lo sono giocato un sacco anche sui cellulari, Mirror Moon, adesso non so a cosa stanno lavorando. E invece il programmatore Paolo Taglié, che aveva aiutato i Santa Ragione a fare Mirror Moon, adesso lavora in Ovosonico, la nuova software house di Guarini, che tra l'altro per esempio Ovosonico è indie come impostazione del tipo di gioco, però non è affatto indie dal punto di vista delle risorse, perché ovviamente è tutta una roba già più, che tra l'altro secondo tutto me tutto sponsorizzato, forse se vogliamo vederla è una delle realtà da tenere più d'occhio, perché comunque sia, per quanto a me personalmente non stia simpaticissima come software house, però sembra che sia gestita in un certo modo con una certa professionalità e che probabilmente ha anche molte chance di crescere, di fare bene. Adesso sono al lavoro su un nuovo gioco, credo per PS4, comunque non più per PS Vita. Sì, per ovvie ragioni, diciamo. Anche per quello, vedremo che cosa uscirà fuori. Poi di recente è uscita Stormy e Teacup di Alberto Belli e Carlo Ivo Alimo Bianchi, che spero di averlo detto giusto, che hanno pubblicato Nero su Xbox One. E per esempio, quella è un'altra realtà che è a metà tra l'indie e il professionale, nel senso che comunque hanno budget molto ristretti, però è la prima cosa che hanno fatto, hanno creato questa demo, diciamo, in computer grafica di questo gioco, che molto spesso quando si sviluppano dei giochi si creano questi pitch. È come il pilot dei telefilm, fondamentalmente. Esatto, addirittura poi non è neanche un pilot, sono dei trailer. Sì, sì. Come i trailer che si vedono alle tre, visto che siamo in periodo. E li presentano ai publisher, magari con un business plan e tutto quanto. Microsoft ha dato l'ok, li ha finanziati, non so di quanto, non so per quanto. Comunque là già c'è stata già si vede che lì c'è una certa mentalità più imprenditoriale, che magari ad altre realtà un po' manca, perché vanno più sul pubblico il gioco su Steam e speriamo che va bene, oppure pubblico il gioco su Steam e mi faccio pubblicità in giro e speriamo che mi retweeta lo sviluppatore famoso, oppure speriamo che mi fa il gameplay lo youtuber famoso, eccetera eccetera. Certo. Futuro quindi in Italia, spero di averle dette più o meno tutte. Le software house, c'è anche la 48H Studio, che è nata tra l'altro in una jam. Loro hanno pubblicato Avoid, però pure loro mi è piaciuto di più Avoid che hanno fatto per la Specie Jam, perché è per lo Spectrum, nonostante che io lo Spectrum, insomma, lo guardi con un gesto di pietà e disprezzo, però non avendo avuto il consenso, c'è gente che potrebbe ucciderti per questo, comunque. Purtroppo le malattie mentali che ci hanno avuto con lo Spectrum giustificano. Scherzo, grande rispetto, ma anche no. grande rispetto per chi, nonostante le sue difficoltà, eccetera eccetera, e no, grande rispetto più o meno. Quindi il futuro della scena italiana, spero guarda, se devo proprio parlare fuori dai denti, spero che e poi ovviamente avevo dimenticato di citare Kunos Simulazioni, che super volano alto, anche se probabilmente c'è molto campanilismo, perché le testate italiane, Assetto Corsa, tutto bellissimo, stupendo, eccetera eccetera, all'estero è più moderata, sono un po' più stretti, sì. Più moderata, ovviamente. Poi io non posso esprimere personalmente, perché non è un genere che, cioè, io gioco Outrun, sbaglio. No vabbè, però sai, adesso arrivano su PS4, comunque c'è stato un riconoscimento internazionale. Infatti, là comunque c'è da ammirare, cioè là ci sono stati Stefano Casillo, che comunque è un coder con i contro, e poi il suo socio e partner, che adesso non mi ricordo come si chiama, che invece è molto ferrato, tra virgolette, in materia di proprio imprenditoriale, perché c'è un manager è riuscito ad assicurarsi la licenza della Ferrari e di tutte le altre marche che ci sono là dentro Assetto Corsa, qualche numero ce l'ha. E a volte spesso che è difficile trovare, e questa è la combinazione che serve, perché spesso o trovi il super manager con i super contatti, che però poi non ha il programmatore all'altezza, oppure il contrario, trovi il super programmatore che però poi a livello imprenditoriale non ha la stessa esperienza, gli stessi contatti, anche forse la stessa aggressività che bisogna avere in certi ambienti. Facile. E quindi il futuro, personalmente io spero innanzitutto che si faccia abbastanza, che si aprano un po', si faccia un po' cambiare aria all'ambiente, perché un po' ci sono tante situazioni che, da quello che sento, io poi non sono dell'ambiente, quindi probabilmente dico solo tante scemenze, però da quello che ho visto, per quando ho frequentato Indie World, poi sono rimasto anche un po' in contatto con alcuni sviluppatori, ci sono tante situazioni che un po' si sono incancrenite col tempo, spero che si risolvano, che si che si lascia andare, perché non è possibile portarsi delle palle al piede per tutto sto tempo. Spero che eventi come lo Svilupparti si moltiplichino e si facciano più frequenti, quindi che la gente continui, perché ovviamente poi il problema è che queste persone si tendono a sentirsi anche un po' isolate, tendono a non e quindi quando stai là nella situazione con tutti che sviluppano, parlano e fanno eccetera eccetera, spero che si vada oltre magari al modello del piccolo team o magari della gestione familiare, e che ci si professionalizzi, ma professionalizzi come davvero con criterio, che insomma con le idee chiare, insomma, con le idee chiare, senza faciloneria, senza, perché ripeto, di talenti non mancano, non dico che siamo i migliori del mondo eccetera eccetera, perché quello sicuramente sarebbe forse fare, a parte che poi non lo posso giudicare io, però da quello che ho visto di talenti non ne mancano, però manca un'organizzazione, manca un po' di networking, mancano diverse cose che speriamo che... Ma poi alla fine, onestamente, guarda, adesso noi parliamo l'Italia, perché magari ci siamo anche cresciuti, però credo che specialmente le nuove generazioni, ripeto, Mattia Traverso, la prima cosa che ha fatto, ha preso e se n'è andato a studiare in Olanda, perché giustamente certo, là ci sta... Per cui secondo me non ha neanche più tanto senso dire la software house italiana, magari ancora adesso per questa nostra generazione ci sarà il sogno, il desiderio di avere la software house in Italia, ma credo che le nuove generazioni saranno meno legate al territorio, dove troveranno i colleghi giusti, la situazione giusta, si trasferiranno, parleranno in inglese, che si spera sarà tutto più facile, anche quello sì, diventerà una lingua conosciuta, più conosciuta rispetto a quello che è adesso in Italia, e quindi non avranno più la roba di ma io sono italiano, l'orgoglio italiano, devo avere il gioco italiano e tutto quanto italiano. Per carità, sarebbe bello, così come è stato bello vedere, che ne so, la Polonia che è riuscita a sfornare un The Witcher. Sarebbe bello vedere anche l'Italia riuscire, però là ci vuole. La Polonia è riuscita a sfornare The Witcher dopo che è stata tantissimi anni a grindare, diciamo, con GOG, a costruirsi questa realtà imprenditoriale di GOG, che poi è andata a finanziare lo sviluppo del primo The Witcher, che poi è andata a finanziare lo sviluppo del secondo, poi è andata a finanziare lo sviluppo del terzo, eccetera eccetera. Per esempio qui in Italia c'è la realtà di Indigala e Bundle Stars, credo anche che sia italiano, credo anche che... Bundle Stars, non lo sapevo, non lo so se sono collegate, credo di sì. Sono realtà italiane che poi un po' hanno ripetuto questo modello, che poi con i soldi fatti con i vari bundle, che ovviamente sono bundle spesso di non di titoli di primo piano, però con i soldi fatti questi bundle sono finanziati lo sviluppo di un gioco alla Minecraft, che sì Blockstorm, esatto, Blockstorm, misto tra Minecraft e FPS, e qui però ripeto, rimane sempre la roba localizzata, sempre un po' in piccolo, poi si può anche stare in piccolo, però giustamente, per carità, non crea un'industria, non arriviamo a The Witcher 3 sicuramente in questa maniera, purtroppo no. Ho capito, va bene. Cristiano, tu da insider che visione hai del mondo? Allora, sì, io diciamo che... Italiano. Sì, scusami, no, stavo riorganizzando l'idea. Dai che è l'ultima domanda. No, io stavo pensando, sentendo Bruno, che lui è molto più preparato a, diciamo, a 360 gradi rispetto a me. Infatti alcuni che ha citato non li conoscevo nemmeno, ma non perché non li voglio conoscere, perché non ho avuto modo, no? non li voglio conoscere. No, perché sembra tipo... che faccio un po', capito, sai, fra italiani, competizione. Invece no, non è questo. No, è che veramente vorrei star dietro a tutta sta roba, ma non ci riesco. Cioè, gioco poco, molto poco ultimamente, quindi... No, ma guarda, Cristiano, sì. Scusa di interrompere. Vi faccio questo esempio, la Crian Soft. Sì. È un tizio che credo che sia di Napoli, mm-hmm. che credo che da solo faccia un casino di giochi, anche picchiaduro, ha fatto Age of Barbarian, che non so se l'avete mai sentito, praticamente ha fatto Barbarian, quello del Commodore 64, però sono giochi che sembrano usciti diretti dagli anni 90 con personaggi in CG. Però esistono ste realtà, questo che comunque ha rilasciato 4, 5, 6 giochi con gente che magari è più famosa, però magari ha fatto un gioco, due giochi. Questo invece ha fatto 4, 5, 6 giochi, tutti arcade, eccetera, eccetera. Però non fa parte della scena e non lo conosce nessuno. Quindi andatelo a vedere. Crian Soft c'ha Age of Barbarian, c'ha la protagonista Barbara con le dirette da fuori. Crian ha scritto come? Crian, C-R-I-A-N Soft. Ah, proprio Crian Soft, eccolo qua. Posta pure su Steam. Oddio, la grafica degli ultimi giochi è un po' proprio rippata di peso da altri giochi di specie SNK. Ha fatto un gioco sul karate. Ha fatto un gioco sul karate, sì. Dove c'è una roba tipo Shenmue che devi sia allenarti sia lavorare. Quindi si vede lui che va là col muletto a lavorare tutto il giorno perché lui è operaio, poi va in palestra ad allenarsi. Sì. È tutto quanto. Che secondo me c'ha proprio le idee dietro sono belle, poi la realizzazione non lo so. Sono sempre promesso di provarli sui giochi, però non l'ho mai fatto. Niente, scusate questa interruzione. C'è Age of Barbarian mi ricorda, sai cosa? Golden Axe, il remake di Golden Axe su PS2, che c'era quella grafica 3D un pochettino slavata, così semplificata. Sì, sì, ma credo che sia una persona sola che fa tutte queste robe. No, certo, lì. Io infatti glielo dissi, massimo rispetto era. Quando mi contattò gli dissi: vieni su Indie Vault, vieni su forum, di ciao, presenti. Sì, dai, mo vediamo. Poi non, Mi viene in mente un altro che attivo nel campo delle avventure, che è sotto il nome di Median Design, che però è una sola persona, mi pare, che ha fatto questi giochi che sono tipo Quantum Nauts 1 e 2, Doc Apocalypse o Zorwell, che se ve li dico nessuno probabilmente li conosce. Però in realtà, se voi andate a vedere sui siti specializzati di avventure esteri, ha pure preso voti interessanti, 4 su 5, no? Queste, e sono giochi molto, chiaramente, non... la visuale al solito in 2D e mezzo, forse, mi sembra. Sì, lo sto vedendo adesso. Non c'è parlato, le animazioni sono un po' così, però questo sforna continuamente questi giochi ed è da solo ed è veramente dietro le quinte, cioè uno che veramente non esce fuori come personaggio, come casa, come software house, però continua a macinare giochi, va avanti, siamo contenti così noi, però effettivamente ci sono queste realtà un poco più, come diciamo noi, campagne ammacchiate, cioè un poco più indistante. Comunque, per quanto riguarda le avventure, vabbè, cito giusto anche un po' per dovere di cronaca, anche come si chiama, i Dream Painters, Mad Orange e i Ticon Blue, che sono quelli poi di Ivan Venturi, che non so se proprio sono considerabili indipendenti, però vabbè, sono quelli che hanno fatto Emmerich, per intenderci, ecco. E niente, va bene. Secondo me, io vorrei dire una cosa che non so quanto può valere per me, basta tanto. E cioè, non sottovalutare, per chi chiaramente non può permettersi il manager, queste cose qui, e quindi deve buttarsi un po' all'avventura, non sottovalutare, diciamo, l'esperienza in campo amatoriale, cioè quella lì che in qualche modo ti consente di non rischiare, di fare qualcosa che magari, anche se non è completo, va bene lo stesso, perché comunque fate esperienza. Chiaramente, se sei e ricordiamolo cosa hai infatti fatto, ci sto arrivando, sì, perché volevo dire questo, è che, cioè, secondo me il chiaramente bisogna essere giovani, perché non è che a 30 anni ti metti a fare un gioco amatoriale, diventa difficile poi fare qualcosa di concreto a quell'età. Però quando l'ho fatto io, avevo 20 anni, mi sembra, chiaramente il mondo indipendente era completamente diverso da quello che adesso, anzi, cioè, appunto, non c'era proprio il boom, non era proprio l'amatoriale e l'indipendente erano quasi fusi, più o meno, no? Quando qualcuno mi chiese questo che poi è diventato mio amico, che stava facendo un fan game su Guerre Stellari, detto così, io dissi: vuoi partecipare? È un'avventura grafica, sarà una specie di un po' rievocherà un po' Zack, perché comunque ci sono Zack McCracken, ci sono quattro personaggi giocabili e tutto quanto. E io, cioè, uno che mi chiede, io che non sono né un grafico né un programmatore, mi chiede: partecipa un'avventura grafica a 20 anni, quando non c'era poi questo tipo di possibilità che c'è adesso, io che gli dico sì, subito, cioè senza pensarci un attimo, no, ero contentissimo. Cioè, a me non importava tanto, certo, che fosse scherzi. Guerre Stellari, però che poi sì, avevo il polso della cosa, perché conosco abbastanza bene l'universo e tutto quello che c'è attorno. Infatti il gioco poi è basato su si chiama Shadows of the Empire, ci sono le Shadows pure qua, come fare, vabbè, mettiamo anche il link di questa, il link, però, no, però non è completo, ecco, non, quindi non è che sto a spammare, sto dicendo che comunque come esperienza è probabilmente la più creativamente esaltante di fra tutte quelle che ho fatto in campo di sviluppo, questa, perché eravamo in tre, perché poi si è aggiunta un'altra persona che conoscevo, un programmatore, e niente, praticamente abbiamo fatto questo gioco che non è uscito, però abbiamo rilasciato qualche pezzo, cioè una specie di mini gioco e poi un frammento del gioco finale, che poi in realtà creativamente era molto stimolante, perché non è che poi si aderiva moltissimo alla storia su cui ci basavamo, cioè c'era molto margine creativo comunque, ma più che altro siamo riusciti a fare un po' quello che volevamo fare in termini di interfaccia, di varietà degli enigmi, no? C'era tutta questa specie di qualunque cosa ci venisse in mente, cioè la facevamo, anche se durava 6 mesi di lavoro. A me me l'hanno data vinta praticamente tutte, quindi perciò forse sono così contento. È autoriale, sì, effettivamente è diventata qualcosa di autoriale per tutti e tre, intendo, perché erano, cioè, noi in sinergia abbiamo fatto, ecco, usiamo questo termine, sinergia. Okay. E niente, comunque è stato molto molto importante farlo, perché io personalmente, essendo anche un pochino insicura come persona, cioè lo dico così, non mi sarei mai buttato a fare qualcosa di commerciale senza aver fatto qualcosa di amatoriale prima, cioè di sapere di poter gestire una cosa. Cioè il campo amatoriale ti permette di avere quell'esperienza che magari non puoi farti in un altro modo, perché poi queste scuole di game design, almeno per quanto riguarda l'avventura, insomma, non è che poi non si sa bene quanto siano poi utili, quanto ti inseriscano bene, probabilmente molto poco, non lo so, però diciamo che forse l'esperienza diretta amatoriale, anche proprio come rapporto col pubblico, serve di più, perché poi il pubblico ti prende anche un po' in simpatia, no? Essendo una cosa amatoriale, no? Certo. Tira lì e tutto quanto, e quindi sei anche più simpatico. E sì, sì, poi sì. Quindi per esempio c'è, cioè, ecco, non lo stavo dimenticando, ma come si chiama, gli Ape Marina, che sono anche qui una sola persona, Andrea Ferrara, che ha cominciato con giochi amatoriali come Donald Dowell, te lo ricordi, penso, Gianluca? Donald Dowell è quello col vecchietto che sta nella magione, molto carino, è un'avventura stile Hollywood Monsters, e adesso ultimamente è andato a svilupparti, a presentare Tales, che è la sua prima avventura commerciale, che parte da un'idea assolutamente geniale per quanto mi riguarda, secondo me farà il botto, in campo chiaramente indipendente sempre. Niente, pure lui ha cominciato a fare 2 o 3 giochi amatoriali prima di buttarsi nel commerciale, e secondo me adesso ha veramente le spalle larghe per poterlo affrontare, e quindi secondo me, invece di provare a fare il progettone della vita, magari il gioco che dura 10 ore, 15 ore, che magari non ce la fai, oppure poi è troppo tardi per ritoccare, fai una cosa più piccola, è più, sempre se trovi la gente, sempre se sei un programmatore o un grafico, aiuta moltissimo. Perché certo. Gli scrittori sono poco richiesti. Esattamente, io infatti, perciò ho detto subito sì, perché da solo dove mi avviamo? Stai studiando musica apposta per questo. Esatto. No, quando me lo chiesero, io chiaramente, essendo un programmatore grafico, ho detto sì, assolutamente mi aggiungo, perché dove altro posso andare, no? E quindi sì, assolutamente, non sottovalutare il campo amatoriale. Fra l'altro io ho cominciato pure con le traduzioni in questa maniera, ho fatto prima le traduzioni, quindi c'è questa possibilità grazie a internet, comunque a tutta una comunità, di entrare in questo mondo qui. Io penso che sia uno dei modi, non l'unico chiaramente, non il migliore magari, però uno dei modi per entrare a sviluppare, cercare di sviluppare roba più roba indipendente, perché poi funge da biglietto da vista oltre a essere esperienza importantissima, perché l'esperienza non va sottovalutata. Noi per esempio l'interfaccia dei nostri giochi commerciali l'abbiamo presa quasi di peso da Shadows of the Empire, no? Il gioco di Guerra Stellare, quindi per dire, quindi cioè, alcune cose sono confluite, si un ricicla po'. Sì, diciamo, vabbè, si ricicla tra virgolette, si cerca di migliorare l'idea, di evolverla o di usarla quando funziona, si recupera, sì. Infatti sì, sì, niente, tutto qua. Ok, no, perché ho visto Marco, tu quali sensazioni hai per il futuro italiano? Lo vedo radioso e ottimista da questo punto di vista, anche perché ha detto tutto Bruno, quello volevo dire io, quindi non dico più. L'unica cosa è l'impressione di scoprire con gioia di giocare a un gioco e successivamente scoprire che è un gioco italiano. Che mi è capitato con Cider Arcade. Dello studio Evil, sì. Che minimamente non immaginavo ci fossero degli italichementi dietro. Sì, sono gambissime loro, veramente. Concordo con Bruno, è un gioco che ha chiaramente un gioco non, come posso dire, non arcade, vabbè, come dice il nome arcade, però comunque si incanala in quella tendenza di fare giochi classici, videogiochi. Questo è un gioco che potrebbe stava bene sull'Amiga. Sì, diciamo sì, così. Sì. Ma allora, infatti, vi ricordo che mi mandarono il codice quando erano proprio freschi di pubblicazione e mi dissero che si ispiravano agli sparatutto dell'era Amiga. Letteralmente sì, è come si dice, una dichiarazione d'amore verso quel tipo di giochi, e come quelli sono impedito, però è una bellezza e anche un divertimento, crepacce sopra, bello. Ti piace perdere old style? È da quel gusto che ha cominciato coso Dark Soul, arriva anche qui ormai, è diventata una mania. Ho capito. Un modo di giocare, solo quello. Speriamo che si vedano anche un po' di più su console questi giochi italiani, perché adesso comunque sono molto circoscritti, insomma, al mercato PC, a parte alcune eccezioni ovviamente, come questo ci potrebbe andare dritto. Non so, sarebbe perfetto. Super Cane Magic Zero, quella produzione presa dal fumetto di Sio che piace tanto ai giovani, però questo sì, ci potrebbe andare comodamente, sì. Ma poi sai, ci sta Resogun sulla PlayStation 4, che fondamentalmente è un Defender pure quello lì, sì. Quindi potrebbero metterlo, c'è già un po' di gente che ha idea di cosa si troverebbe tra le mani. Va bene, c'erano ancora un paio di punti nella scaletta, ma direi che, visto che siamo a 2 ore di podcast, possiamo anche tagliarli. Lancio velocemente la rubrica della posta per leggere una letterina di un commento. Cara filosofia dietro ludica. No. Carissima videologia dietro ludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va, è uguale. Allora, il commento è di Exit Planet Dust, che è uno dei commentatori appunto più costanti di trilogia videoludica, che commenta, Marpo, un episodio che abbiamo fatto insieme con il buon Biggio, anche, che era il Campore in Camporella, quello, uno scherzo che abbiamo fatto a Pizzi praticamente. Sì, lo vuoi leggere tu, visto che è breve, o facciamo a pezzetti? Una porta io, una porta tu. Vogliamo fare a pezzetti, vai. Comincio io? Vai fino a fuorviante, vai, poi ti farò il coro. Fuorviante? Ah, ecco, l'ho trovato, sì. Va bene. Complimenti per lo spessore degli argomenti trattati in questo episodio, in particolare per la pregnante esplorazione topica che ne informa lo spirito. Per certi versi sono d'accordo con l'analisi portata avanti e indietro, ma su molti punti ho delle perplessità. Il ruolo attanziale del giocatore all'interno della simulazione secondo l'assunto che l'esperienza performance ludica rifletta un modello simulativo integrato all'interno di una co-creazione diegetica, non è riducibile ad una mera sequenza ordinata di stati, secondo lo schematismo derivato dalla teoria della fruizione ergotica del testo. Un simile approccio mi pare semplicistico, se non addirittura fuorviante. Certo, è una posizione che può risultare proficua rispetto al modello tradizionale applicato al testo lineare, ma nei confronti del testo ludico non rende abbastanza conto della particolare qualità dell'azione messa in atto all'interno della fruizione performance digitale. Se ci pensate, si tratta come al solito di una forzatura interpretativa che, sebbene comprensibile alla luce della mancanza di strumenti teorici interpretativi propri, va applicata con cautela. Da che il rischio di partorire una visione monca e impoverita dell'oggetto di studio è fin troppo consistente e, s'avance à dire, l'oggetto di studio è qui la performance prestazione interattiva, non un testo, neppure iper. Vai Marco, ti cedo il testimone. Come del resto dimostra la manichea dicotomia tra posizione narratologa e ludologa che divaricò le gambe dei game studios fino a qualche anno fa, mi riferisco in particolare al punto dell'episodio in cui si afferma la qualità topica dell'auto guidata dal fruitore in un racing game, suggerendone pure tanto velatamente un'avventata, a mio giudizio, identificazione tra utente e mezzo virtuale, inaccettabile sul piano ontologico, da che trascura la fondamentale consustanzialità tra il giocatore e la sua performance, ovvero il giocatore implicato dal testo digitale, il testo terminale, per dirla con Maietti. Prego. La mia idea, insomma, è che non è importante la dimensione della protesi tetradigitale del fruitore, bensì il modo in cui la si usa. Ciò al fine del pieno raggiungimento, mutatis mutandis, di quella posizione ergodica che, come accennato, traspare secondo me da molte vostre affermazioni. Ma io direi che comunque è un commento condivisibile, anche se non al 100%, con i concetti che abbiamo espresso. No, l'unica cosa è qui ho notato, scusate, che ergotica se l'è giocato due volte, quindi c'è ridondanza in questo test. C'è anche ridondanza, rispetto... Il problema è che anche una certa supponenza, io non voglio anche dire. Una certa, il problema è che in dietrologia videoludica abbiamo l'abitudine di curare in maniera eccezionale il lavoro che facciamo, gli episodi, le scalette, la preparazione alle spalle di ogni puntata, insomma commenti del genere ci umiliano e umiliano il nostro lavoro come se non ci fosse rispetto per quello che facciamo. Mentre siamo professionisti pagati anche troppo poco per tutto ciò. Vabbè, comunque. Non ci meritate, assolutamente. Comunque salutiamo Exit Planet Dust, che è un mito, ci segue sempre e li vogliamo tantissimo bene per questo. Bene, io saluto le persone che mi hanno fatto compagnia. Bruno, sei stato super completo e prezioso per tutte le informazioni da Prego. Davvero esperto del settore. Mi spiace di essere stato un po' confusionario, però onestamente davvero. Ma no, ma che scherzi, tanto quella roba che mi veniva. Anzi, poi tra l'altro, per esempio, Super Cane Magic Zero l'avevo completamente dissociato, però quello adesso è il progetto nuovo di Studio Evil che diciamo stanno spingendo, gli hanno super finanziato su Appela e bla bla bla. Bene, no, ma figurati, comunque se volessimo trattare tutto l'indie non basterebbero 200 puntate, penso, perché ogni team, ogni cosa avrebbe una storia e argomenti interessanti, quindi tranquillo, grazie veramente di aver partecipato. E poi ciao Marpo anche per la lettura in collaborazione della... Grazie caro, grazie, però devo ribadire che vi potete trovare su www.retrocast.it, che è tutto di Stefano Biggio, non voglio assolutamente perdere i meriti. E ovviamente Bruno lo trovate su Freeplaying, che è il suo podcast podcast famoso, mio, insomma, di Simone Cognome, che forse avete sentito in altri podcast anche di PN. Sì, Davide, sì, sì, ha partecipato anche Mirko più felice di Simone Tagliaferro, ogni tanto c'è pure lui, sì, venite che vi trovate bene, dai. Sosteniamo noi anche su YouTube, no? Ci siete poi? Sì, ma su YouTube ultimamente non pubblichiamo niente perché è davvero troppo, oddio, c'è il canale di recensioni musicali di Davide e Simone, che però è una roba, però non so, sì, vedi su freeplay.it, trovate tutto là, YouTube, ok, Google Plus, Reddit, tutte le cose che non segue nessuno, cioè dopo. Va benissimo. E Cristiano, invece, a te dove ti troviamo? Sì, io mi trovate su, chiaramente su New Pips Corner, che è il mio sito aggiornato una volta ogni lustro, direi. E ci piace così, va bene. Sì, e poi niente, spero comunque adesso così ci piazza uno spammone improvvisato. Vai. Ci piace così, visto che parliamo di giochi fatti da realizzati da solo un programmatore o uno o due programmatori, spero di riprendere in mano una rubrica che mi piaceva molto, che è Como Ador, che è la rubrica su questi videogiochi del passato che giravano su Commodore 64, che tengo con il Commodoro, che è questa presenza mistica che fra l'altro qualcuno pensa, crede che fu anche coinvolto nel progetto che ho parlato prima di Guerre Stellari, però non così, cioè, che... ma non è assolutamente così, non si sa, il Commodore speriamo di andare avanti. E poi ti volevo anche ringraziare per questa ospitata, perché non solo ho imparato un sacco di cose grazie a Bruno sul panorama degli indipendenti italiani, ma soprattutto ho imparato qualche parola nuova negli ultimi 10 minuti grazie alla posta. Da che io lo userò subito d'ora in poi. Da che per me sarà, lo sentivo da non so da che da che bellissimo, sì, è giustissimo. Sì, se posso un secondo insieme, se siete interessati sia tu che sia chi ascolta questo podcast alla scena italiana, io vi consiglio di seguire indievolt.it, gpgameprog.it, sono ovviamente siti di sviluppo, e quindi se volete entrarci ci dovete entrare molto in punta di piedi, perché c'è gente super professionale, quindi diciamo che è poco tollerante verso chi non ha un certo tipo di curriculum. E poi sì, questi due principalmente vi possono un po' dare l'idea di quello che bolle in pentola in Italia dal punto di vista dello sviluppo, se siete interessati, perché comunque di roba ce n'è, ripeto, però si conosce molto poco. E poi ce n'è un altro, vabbè, comunque gameprog.it e indievolt.it, ci mettiamo la tag no perdi tempo su questo nell'entrare in questi siti, astenersi per di tempo. Sì, diciamo che è come entrare tipo nel bar dei motociclisti, cioè ci devi entrare già convinto, se non meglio che stai fuori e guardi da lontano. Io sono iscritto su IndieVolt, ho seguito ultimamente, solo sto un po' perso colpi, ma proprio in generale sullo sviluppo videoludico, però IndieVolt grande punto di riferimento comunque. Diciamo che lì c'è il subforum i nostri progetti, dove comunque gli utenti del sito pubblicizzano le loro robe lì. Spesso io qualche volta io lo seguo comunque come forum, anche se non partecipo più, quindi quando vedo qualche cosa un po' più interessante la giro anche su Free Playing, così giusto per segnalarla. E ultimamente continuano a uscire sempre progettini, però robe interessanti non ne manca, insomma. Benissimo. No, Cristiano, grazie a te per aver accettato l'invito, anche perché so che non è che hai tantissimo tempo. Ah, quindi, a proposito, scusate, grazie. Ovviamente Calavera Caffè, seguite tutti. Lo spammone è assoluto. Scusate, il podcast delle avventure grafiche, che ultimamente esce molto, molto a rilento, anche questo, perché è complicato programmare una puntata, cioè organizzarci sta diventando un po' difficile, quindi insomma seguiteci, perché così ci date un po' più di coraggio, diciamola così. Assolutamente, anche perché è un podcast bellissimo, e non lo dico perché c'è Cristiano o perché fa parte della produzione, diciamo, lo dici perché, di amici, perché di Simone, lo dico Vizzi, soprattutto, che è di PS, assolutamente. Esatto. Per quello, no, è veramente una squadra che funziona ed è divertente. Parlano un po' troppo male di Jane Jensen, però vabbè, ho pazienza. No, io stai parlando con l'unico che ne parla bene. No, pure Alberto. Che è l'unica che la difende. Sì, sì. No, pure io non ne parlavo male. Va bene. Già siamo troppi. Sì. Già siamo troppi, infatti. Va bene, ragazzi, grazie davvero. E un saluto a tutti voi che ci avete ascoltato. Avete avuto la pazienza di resistere fino a questo punto. Alla prossima puntata. Ciao. Ciao. Buonanotte. Oh. E ora cominciamo la trasmissione. Allora, qui c'è scritto scrivere intro, ma noi la saltiamo. Ciao Pizzi, che non me ne raccordo di questa cosa. Come? Flawless victory. When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the DC area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.